Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio sapere da quel bugiardo di Conte, perché l'unico bugiardo è lui con la sua compagnia bella che è Di Maio, Zingaretti, perché al governo ci sono loro. Tobi! Forse l'abbiamo seminato. Tranquilli, è morto. Nessuno muova un muscolo. L'uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, contro i virus, contro la spagnola, contro le guerre, contro i dittatori. L'uomo, l'essere umano, ha sempre vinto. Alla fine, anche se per poco tempo, lungo tempo, il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. Esatto. E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Dura un'eternità. Leonardo! L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. E nel sole io verrò da te. Quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. In due parole, Parenzo? Un furetto, no? Un furetto che si presta a qualunque tipo di umiliazione. Non ha il senso della dignità, ma è per questo che lo paghiamo. Cosa? Parenzo? Un furetto, no? Un furetto che si presta a qualunque tipo di umiliazione. Non ha il senso della dignità, ma è per questo che lo paghiamo. Che l'uso di tutte queste sostanze chimiche per decontaminarci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato, oddio, delle belle reazioni, perché no, a furia di strusciare tutto, no, con la Madonna, pulire, pulire, pulire, non pensare che è il disinfettante, se noi ci mettiamo i guanti e poi con i manti tocchiamo la Madonna gli lasceremo quello che abbiamo dentro. Abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi, luci, lampade, ozoni, madonne, robot, abbiamo bisogno di una varichina ridotta, diluita 1 a 10, perché la probabilità, il virus viene sicuramente eliminato, luci, lampade, ozoni, madonne. In diretta da via Monterosa 91 2149 Milano, grazie! Inizia l'altra settimana e so cazzi in quel di via quartiere Prati, Roma, è tornato alla base da una località segreta, David Parenzo, eccolo. Buonasera cari amici, avete costruito una nuova fake news mettendo insieme le parole dell'ottimo Barisoni con quello che voleva, che, con quello che avreste auspicato dicesse, con quello che avreste l'uomo che si fa umiliare, l'uomo che si fa umiliare. Avete messo insieme le sue parole, ma voi siete dei maestri nella falsificazione del resto, perché prendete spizzichi e bocconi di frasi e le rimontate, una specialità di questa trasmissione che da più di 10 anni con la mia presenza in festa, mio discapito, in festa, va in onda in festa, in un orario clou peraltro, che è il cosiddetto drive time, tra le 18.35 e le 20.50, uno degli orari di massimo ascolto assieme alla trasmissione del mattino. E allora io mi domando, ormai da qualche tempo, come mai questa trasmissione, non avendo alcuna rilevanza di servizio pubblico in nessun settore, anzi è una trasmissione che devasta, disservizio, balle, volgarità, contro le imprese, tranne quelle che si occupano di prostituzione, va contro gli interessi del paese, perché ogni cosa innovativa viene è antiscientifica, perché spesso vengono intervistati personaggi improbabili. La domanda è: tutto questo perché continua ostinatamente ad andare in onda? Perché? Perché? Questa è una domanda centrale, secondo me, centrale. Però sono Giuseppe Cruciani, io resto in Italia. Tra l'altro, io resto in Italia. Questa è una follia. Fa pure gli spot. Invito, poi dopo si penta degli spot che fa e rema contro l'industria del turismo. Albergatori, chiamate per insultarlo, perché lui, che ha la qualifica di inviato e guadagna 457.000 euro l'anno, 457.000 euro l'anno, più i soldi che prende quando va da Del Debbio. Ti ricordi quando Berlusconi diceva, non so, vi daremo 342? No? Diceva sempre quelle cifre, che se lui c'è la cifra tonda, effettivamente la gente non ci dice, guadagna 300.000 euro. Se io dico che tu ne guadagni 457.000, la gente ci può credere, sì. È più verosimile, dice, cazzo, com'è? Perché non 458? No, 457.000 euro l'anno. L'anno. Per gestire questi soldi ha creato una società, perché essendo lui lavoratore dipendente, ragazzi, altrimenti ha creato una società e ha chiesto all'azienda di farsi pagare in questa società, così lui la casa che ha in affitto a Milano la scarica pure, perché risulta ufficio. Ragazzi, cioè, ragazzi, siete, questo è il contesto. Siete una vergogna, sei una vergogna. Questa è l'unica trasmissione, ripeto ancora una volta, in cui i conduttori si insultano e si denigrano a vicenda ai massimi livelli, ai massimi. Potrei rivelare delle cose su questo weekend nascosto che hai fatto, non lo dico e non lo faccio. Anche tu sei in una posizione abbastanza ricattabile, quindi evitiamo di rendere il nostro essere qui un ricatto continuo l'uno nei confronti dell'altro. Ecco, parto qua con Boccia, che non è l'ex presidente della Confindustria, bensì il ministro per gli affari regionali. Ora, ragazzi, va bene, ha detto una cosa, che ha fatto una cosa anche interessante e giusta. Ti prego, non c'è calma, qui non c'è mai calma. Con calma. La calma non esiste, innanzitutto. In questa trasmissione la calma è bandita. Il punto fondamentale è uno. Ragazzi, ma come cazzo si fa? C'è già la polizia, ci sono i poliziotti di quartieri, come si chiama, la polizia municipale, la polizia urbana. Ma cosa c'entra? Come questa? Cazzo si fa solo a immaginare, a pensare con tanto di pettorina di reclutare 60.000 assistenti civici? Perfetto. Per non fare un beneamato cazzo. Questo contribuire è il punto. Al massimo possono prendere gli schiaffoni dalla gente, ma a cosa servono? Per fermare la movida? A cosa servono? Eventualmente segnalano alla polizia, ma hanno un ruolo civico. Ma che sei? Ai vigili urbani, eventualmente segnalano. Sono lì per spiegare le norme. Spioni. Ma quali spioni? Sono lì per... Intanto sono persone che sono in cassa integrazione e che percepiscono il reddito di cittadinanza. E quindi vengono messi a fare un lavoro utile. Questo è fascisti tema. Che tu non dovresti amare. Fascisti, ma ce l'hai in bocca nel momento sbagliato. Gli assistenti civici, guardi, indosseranno questa pettorina e saranno a disposizione dei sindaci. Con il loro sorriso, la loro educazione, ricorderanno nei luoghi dell'assembramento che bisogna fare ancora qualche sacrificio. Non bisogna stare insieme, bisogna restare lontani, mantenere le distanze, avere la mascherina e soprattutto tutelare con questi atteggiamenti i nostri cari. Ma di cosa sta parlando gli assistenti civici con la pettorina? Molto semplice. Ma come quelli che aiutano i ragazzi come ad attraversare il culo la scuola. Governo, è una puttanata. Ma non c'è niente da lo sapeva manco il ministro degli interni, non sapevano un cazzo. Questo è un problema del governo. Dai, ma se tu mi chiedi di commentare una cosa che ho studiato nel dettaglio, è uguale. È uguale ai volontari che aiutano i bambini ad attraversare la scuola. I nonni, ti ricordi quei nonni? I nonni che aiutano i bambini ad attraversare sulle strisce pedonali mentre vanno a scuola. Ma non è che in questo questo momento servono persone che accompagnano i nonni alla traversata della strada. Ma tu hai delle persone in cassa integrazione che prendono il reddito di cittadinanza e che non fanno nulla. Ma perché dovrebbero fare i questurini? Monitorare nelle piazze d'Italia, sensibili, e fanno un ruolo civico. Sì, a prendere gli schiaffoni. Quali schiaffoni prendono? Che schiaffoni devono prendere? Sentite, di quale deterrenza saranno dotati? Della forza, della persuasione, della ragione e dei loro sorrisi? Ma vaffanculo. Ma dai, su, dai. Ma che roba è? Invito la signora Annunzia De Girolamo, come mi è stato suggerito da Poli, invito la signora Annunzia De Girolamo ad agire velocemente nell'opera di convincimento del marito, essendo la signora De Girolamo. Ma è un'ottima idea. In casa col signor Boccia, ministro degli affari regionali, a intervenire con la sua forza di persuasione e dire: amico mio, marito mio, mio compagno, mio come amore mio, basta con questa cazzata, ritira questa proposta degli assistenti. È un'ottima idea invece, ma innocua è ottima. Innocua, allora, adesso che non ha costi per lo Stato. Andiamo all'altra cazzata che ho sentito durante questo weekend. Albano, l'abbiamo già sentito in apertura, che parla dell'uomo che ha ucciso i dinosauri. Questo devo dire che è strepitoso. Però posso salvarlo un attimo? Cioè, è Albano, perché non è a Piero Angela. È Albano, dunque non è che è necessario che abbia in mano tutta la scienza del mondo. È vero che l'uomo non ha mai incrociato i signori dinosauri, un'altra era. Dunque l'uomo non forse ha... lui ha visto Jurassic Park, ha visto troppi film tipo Jurassic Park. Sì, la cosa fondamentale è questa. Lui dice: il mondo dopo i dinosauri è arrivato l'uomo. Forse questo voleva dire, lo so. Comunque l'uomo non ha ucciso, non ha sterminato i dinosauri, ecco. Cioè, non ha ucciso nemico. Il dinosauro non era un nemico dell'uomo, ecco. Si è estinto da solo. E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Altra cazzata del weekend. L'assessore alla sanità della regione Lombardia, il signor Gallera, e Cruciani non dice niente. Siccome sono la sua parte politica. Ma quale parte politica? Non dice che cazzo nulla, me ne frega? Non lo enfatizza perché è la sua regione, la Lombardia, fa le sue marchette, fa le sue visite gratuite con i medici migliori specialisti, migliori medici, dove tu li chiami ogni volta che hai anche un problema al mignolo, chiami tutti i medici. Scusami, sei un diffamatore di professione, per non fare nomi. E adesso tace sulla vicenda di Gallera. Ma non ti devi preoccupare, perché come tu sai, gli avvocati di a buon diritto sono via, a tua disposizione. Gallera, esatto. 051 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette, perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Allora, quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione. Però scusami caro Gallera, basta una persona per infettare un'altra persona, non ce ne vogliono due. Questo già è un principio fondamentale. Se uno è infetto e sta accanto a un infetto, quella persona teoricamente si potrebbe infettare. Per cui non è che questa cosa che ci vogliono due, tu hai ribaltato un criterio che è un criterio semplicemente statistico, che significa il calo della curva del contagio. Esattamente. Ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma la cosa straordinaria di questa cosa qua è che uno dice: vabbè, ha fatto una gaffa. Pure potrebbe essere che 0,50 si infetta mezza persona. Parenzo è infettato a metà, cioè metà Parenzo infettato e l'altra metà no. Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento per Gallera. Il bello che signor Gallera poi uno dovrebbe ammettere, non vuole dire nulla, non voleva mandarlo in diretta, in onda. Cioè, tu non dici voleva. Che prima ti ho detto una cosa del genere, cioè fuori dalla trasmissione ti ho detto: lo mandiamo in onda, mi sono chiesto, lo mandiamo in onda o non lo mandiamo in onda? Ho combattuto fino a pochi minuti fa. Allora, Gallera, tra l'altro, cercando di spiegare questa cosa, io posso dare un suggerimento di comunicazione, magari non ne ha bisogno. Morisi, quello di Forza Italia, Gallera. Posso dirti una cosa? Ragazzi, quando uno dice una cazzata, ho detto, uno la deve buttare anche in caciara, no? Dicendo: sì, vabbè, era una cosa così, un errore, sì. Dice: no, ho semplificato il concetto di contagiosità. No, non è che è proprio un'altra cosa. Cioè, vabbè. L'altro giorno ho cercato di semplificare il concetto dell'R con T e dell'R con 0, cioè dell'indice di contagiosità. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero 1, secondo, terzo. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Dabbi! Io ho sempre pagato e continuerò a pagare. Piuttosto non mi faccio la spesa, ma mi pago le cose che devo pagare. Capito? E mia sorella oggi mi deve andare a fare una ricarica pay. Ci vatti a fare una ricarica perché non si può fare. Vi dico una cartolina aperta, se no non mi vergogno. La ricarica pay. No. Allora, a proposito di virologi, quella era la solita Clementi, la nostra amica estetista Clementi. Allora, a proposito di virologi, ragazzi, poi uno dice che se la prende con i virologi, eccetera, eccetera, basta prendersela con i virologi, la scienza, eccetera. Sono, come dire, alla fine sono le vittime vere di questa vicenda, oltre ai morti naturalmente, ma le vittime mediatiche di questa vicenda del coronavirus, quando sarà tutto finito, saranno i virologi. Nessuno li vorrà più invitare da nessuna parte. Quelle cazzate che hanno detto non saranno più da nessuna parte. Alcuni ci avranno guadagnato con i libri e con le comparsate televisive, altri no, e saranno espulsi da ogni consesso civile e civico per aver detto una marea di puttanate ogni giorno. Ma solo è la scienza, non tutti, che via via che si sono, allora, conosciute le cose sono diventate più chiare. Però ti, ma posso ti posso segnalare questo, io lo apprezzo, è una persona che incontro ogni tanto nelle trasmissioni, signor Pregliasco, no, sempre presente dappertutto. Senti, secondo questo Pregliasco, come dovrebbe essere la movida secondo un virologo, cioè secondo una persona che dice, vabbè, attenti, no? Non ci dovrebbe essere la movida. Sì, ma a parte che il termine movida, che andrebbe abolito, andrebbe abolito. Piccoli assembramenti di persone, piccoli. Ma cosa vuol dire? Ma non è che la gente, non è, le scene che vediamo, ci sono delle scene ovviamente di 100 persone, quelle magari non va bene, ma sti grandissimi cazzi, quando il contagio in un posto è zero, ma cosa vuol dire? Cioè, ti posso dire, scusami, ma io sono più stupido degli altri, che non sono andato a fare gli aperitivi con tutto quello che mi piace bere, quanto mi piace la Maggi Spritz, come sai. Ma non è che non ci vai per responsabilità. Non ci vai perché non ci vai mai. Per responsabilità, ma no, ci andrei, come durante l'anno ci vado e come. C'è la zanzara a quell'ora, ma che dici? Ma c'è la zanzara, ma no, il venerdì e il sabato, dico, il sabato e domenica. Il venerdì alle 9, il sabato e domenica. La movida è assembramento. Lei sa che secondo Aristotele è un flusso. Un flusso. Allora i sindaci, un flusso di persone che non stazionano. Ma tu ti rendi conto? Tu ti rendi conto? La movida, certo, dovrebbe essere un flusso di persone che non stazionano. Io però vorrei spiegare a Pregliasco che quando c'è una piazza e quando ci sono delle persone che bevono un bar, flusso non può essere, perché le persone stanno ferme. Dunque, le persone stanno ferme a bere. O si immagina tante persone che girano di continuo, distanziate per i vicoli delle città a fare l'aperitivo. Ma di che parliamo? Se apri i bar, alla fine è inevitabile quello che succede. È inevitabile. Dai, su. Ragazzi miei, dai, non rompete i coglioni con queste cose, dai, non rompete il cazzo. Chi c'è? Porro sulla movida, andiamo con Porro sulla movida, l'attacco, vai. La movida, sapete da cosa nasce? È il grande momento di libertà che c'hanno gli spagnoli dopo la fine del franchismo, chiaro? E dopo la fine di qualsiasi dittatura, di qualsiasi privazione della libertà, soprattutto i più giovani, ma io che non sono giovane mi metto tra loro, la libertà di potermi prendere un drink all'aperto, non voglio che me la tolga nessuno. Ma siccome è legittimo poter fare la movida, non la criminalizziamo, chiaro? Non sono i nuovi criminali, perché sennò questo paese è tutto criminale. Guardate che noi stiamo avviandoci a una lenta morte per le nuove regole sanitarie che ci stiamo dando in virtù di paure che sono largamente esagerate. E il sindaco di Milano che dice no un altro che weekend. È incredibile. Aspetta, cioè, sembra che il governo sia contro la gente che si diverte, come lo state rappresentando. Beh, ma non è che si divertono a mettere dei divieti. Evidentemente sono fatti per tutelare la nostra salute ed evitare che ritornino dei focolai. Allora non apri bar, perché è impossibile. Perché sennò. Porro perché non lo dice? Perché? Perché il Porro sindaco di Milano dice che dice questo? No un altro weekend così. Ma ragazzi, a parte che ha compito suo vigilare, innanzitutto, dunque no, un altro sì, ma non volendo così attaccare le attività produttive, dice potete regolarvi, tutti possono dare un contributo? Quello che si capisce è che gli inviti al buonsenso, alla responsabilità, vedi, funzionano, sì, anche pochino. Dobbiamo comunque trovare una formula, vedi, lo capisco. È chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando. Però è altrettanto chiaro che questo weekend, ecco, non è stato un weekend sereno e ovviamente allora, non possiamo immaginarne un secondo in questo modo. Intendiamoci, allora la gente pensa che sia tutto finito, diciamoci la verità, la gente pensa che sia tutto finito, escono soprattutto persone che magari rischiano qualcosina, ma di io non ce la faccio più a non fare le cose che facevo prima, è assolutamente comprensibile. Se vogliono vietare qualcosa, mettano i presidi a ogni bar e non rompano il cazzo. Cioè, perché le persone si avvicinano, ma parlano. Non puoi fare l'aperitivo lontano e non parlare. Ma che cazzo è? Ma dai, questo servirà la Guardia Civica. Ma quale che Guardia Civica? Boccia. Ma mettitela nel culo la Guardia Civica. Va. Esattamente questo. Infilatela nel culo la Guardia Civica. Persone non pagate con il reddito di cittadinanza che svolgono una funzione civile. Ma infilatela nel culo la Guardia Civica. Mi sembra una cosa veramente semplice. Ma infilatela nel culo la Guardia Civica. Te la infili nel culo e non ne parliamo più. Senza usare le forze dell'ordine che possono essere impiegate in altre cose. Dove sei? In Venezuela? Ma dai, sulla Guardia Civica. Gente che del non governo, ha la Guardia Civica del governo. Ma che governo? Al servizio dei cittadini per spiegare che cosa devono fare. Tommaso da Catanzaro, vai. Tommaso da Catanzaro. Avanti. Intervengo per dirimere la vostra controversia. A questo punto la Guardia Civica sarebbe bene che la guidasse il dottor Brasiliano. Sì, aspetta, ti dobbiamo sentire bene, però per come al solito non si sente un cazzo, per cui o ti ora metti in un po'. Ti senti meglio? Sì, ti sento meglio, sì. Ok, intervengo per dirimere la controversia. Sì, questo l'ho capito. I sorrisi, il dottor Brasiliano sarebbe sì, il esatto, per guidare esatto, questa bravo. Guardia Civica. Io propongo il brasiliano, come capo delle guardie civiche, non so come cazzo si chiamano, guardie civili di Roma. Benissimo, assistenti civici di Roma, benissimo, con la pettorina il brasiliano, così è perfetto. Davanti al brasiliano, guarda, ti posso assicurare che la movida a Roma sparisce dopo un secondo. Lui e l'altro dottor Parenzo, lei cosa ne pensa? Ma no, ma Parenzo. Io penso che sia una grande cazzata, perché penso che questa guardia civica, cioè persone ma che quale, prendono reddito di cittadinanza o cassa integrazione, ma non lo sapeva possono nessuno. Dare un contributo. Ma che c'è da sbagliare? Ma lo sanno. Possono dare un contributo ad evitare questi assembramenti. Ma quale evitare? Senza impiegare polizia, esercito, guardia di finanza, vigili urbani. Bastano quattro poliziotti civili, agli angoli delle strade, quattro civili che aiutano dai. A far capire se c'è un problema segnalando alla polizia. Dai, tutto su, qua. Che puttanata. Victor da Como, anzi Francesco dalla provincia di Enna. Vai, Francesco, provincia. Dimmi Francesco. Sì, allora buonasera. Dimmi. Vorrei intervenire, criticando, sì. criticando Parenzo. Vuoi criticare eccoci Parenzo? Qua? Sì, ci mancherebbe Parenzo. Altro per fortuna. Allora, per Parenzo, mi preoccuperei, allora, mi preoccuperei Parenzo, se un ascoltatore, della, un telefonista della Zanzara perfetto. Non mi criticasse. Mi preoccuperei. Va bene, mi preoccuperei. Dimmi, Francesco, dimmi. Parenzo, molto pacatamente, tu non stai capendo niente di questo coronavirus, niente proprio. Invece, professore, cosa ha capito? Sentiamo, dell'istituto di virologia. Sto formulando un pensiero molto, molto fusariano. Sì. No, ma tu non stai elaborando nessun pensiero, cioè questo è il punto fondamentale. Tu pensiero non elabori di principio, però aspetta, fermo lì. Allora. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La Zanzara. Pronto? Sì, pronto, mi sente adesso, signora? Sì, mi dica. Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone dove possiamo trovare conforto, vero conforto. Secondo lei dove possiamo trovare? Nella figa! Che fica tutto bene, Parenzo. Fica tutto bene, Parenzo. Nella figa! Fica tutto bene. Parla di figa! Fica tutto bene. Parenzo. Fica tutto bene. Ehi, piccoletto! Fica tutto bene. E le cade nella figa. Come on, baby, carry on. Alisoni che obbliga Gruciani a fare lo spot pro Italia dimostra solo una cosa: Gruciani, sei una puttanella. E io non ho mai ascoltato, cioè sono sempre stato fan della Zanzara, perché porta degli spunti antropologici fantastici, secondo me, no? Cioè dal demone scimmia, un sacco di cose fantastiche. Le inchieste, esatto, di piedi femminili che ho rubato, esatto, da Luciano. Sì, sì. Piazza dei Mirti stamattina, Ardero, finito Ramadan e stanno tutti a Piazza dei Mirti, tutti ammucchiati. Beh, poi a noi ci fanno rompere il cazzo per l'assembramento. Guarda quanti sono, va. Ma vaffanculo, va. David, in questa cosa si ascoltano delle cose, in questa trasmissione si ascoltano delle cose che da nessuna parte si potrebbero ascoltare. Diciamo già, la verità, diciamo la verità. Forte, diciamo... Ah, puoi dirlo forte. Puoi diciamo dirlo forte, ma senza orgoglio. Lo diciamo qui, fuori dal coro. Poi è un gemellaggio ormai che hai fatto. Tra l'altro Giordano è incazzato nero con te perché hai detto una cosa completamente sbagliata. Praticamente indirettamente ti ha mandato a fare in culo tramite i WhatsApp crucianiani. Tramite i WhatsApp crucianiani. Quando era bianco. Dopo con me, ti informerò, non so perché hai detto una cosa. Sentito il podcast di venerdì, era incazzato nero, mi ha mandato un messaggio su Sciacalli. Non lo so, no su Sciacalli no, non mi ricordo. Fallo sentire il no, messaggio, ma non sentire la voce non di Mario. È vocale, mi ha scritto, modo, no, mi ha scritto, cosa mi ha scritto. Leggi cosa ha scritto, leggi ma cosa non ha scritto. Lo so adesso. Se ho sbagliato chiedo scusa, io sono disposto a chiedere. È Bibbiano. Ne parleremo stasera. Allora, ormai si è formato un partito, ragazzi, che si potrebbe chiamare No Mask. Partito di quelli che sostengono che le mascherine sono totalmente inutili, non servono a un cazzo. Posso dirti la mia personale esperienza, caro David, per come le mascherine vengono portate, per il fatto che la maggior parte sono quelle, diciamo, non professionali, chiamiamole così, senza scendere nel dettaglio, sostanzialmente, a parte gli sputazzi chiaramente tra una persona e l'altra, le reputo anch'io totalmente inutili. Allora, non perché siano inutili, sia inutile mettersi la mascherina quando tu vai in ospedale, non so, ma nel caso in cui uno sta in piazza così, è evidente che è inutile, perché le persone se le tolgono, le infettano, le sporcano, le toccano con le mani. Non ha nessun senso logico, capisci che non serve più. No, invece quando c'è tanta gente, vabbè, ha comunque senso logico, ma Sgarbi è esattamente il contrario. Sgarbi è praticamente il capofila, il segretario di questo partito No Mask. Sto ascoltando il telegiornale, vedo passare immagini di benefattori dell'umanità, politici italiani, politici regionali, Conte che parla al popolo, e poi Zingaretti, e poi l'ex ministro Delrio, e tutti rigorosamente passeggiando, camminando per le strade delle città con la mascherina, con questo bavaglio con cui finalmente fanno capire che hanno trovato la soluzione per la sicurezza. Stronzi inutili! L'aria aperta, il sole, il mare, i luoghi dove si sta per la salute non devono essere dei luoghi in cui uno mostra la paura e tutta la popolazione per vendere mascherine, 600 milioni di mascherine, con un ricatto che durerà 2 mesi, fingendo che sia la ragione della sicurezza. No, no! In Parlamento sono arrivati a imporre la mascherina il 20 aprile, quando il contagio era in movimento da gennaio, e da gennaio fino ad aprile non hanno fatto un cazzo! Abbiamo scelto di impedire ai bambini di stare all'aperto, impedire ai bambini di stare in un prato, impedire ai bambini di andare al mare, multare chi faceva il bagno da solo a Mondello. Follie di idioti! La mascherina è il primo buon esempio che deve dare il politico che governa. Non è un buon esempio, è la prova della vostra testa di cazzo, di morti, di persone che non sono capaci di avere un'idea e neanche di dire: andate al mare, fate il bagno, prendete il sole, siate liberi, è estate, sta arrivando l'estate, guarite con la natura. cazzo, guarite con la natura, detto da Sgarbi, sembra una cosa quasi quasi animalista, bucolica, però, animalista, vegana, bucolica, guarite sì, con anche, la natura. Ma è vero che stare all'aria, il buon senso, stare all'aria aperta fa bene, nessuno lo mette in discussione, questo è stravero. Allora, Francesco, insomma, anzi Victor da Como, va, avanti, Victor da Como, su, Victor, dimmi. Sì, shalom, dottor Parenzo, shalom. Come sta? Shalom, shalom, shalom, shalom e anche salam aspetta, aleikum. Aspetta, che c'era ancora Francesco dalla provincia di Enna, aspetta, Victor, scusami, allora, c'è adesso. Francesco dalla provincia di Enna che doveva concludere il suo pensiero, anzi non lo doveva nemmeno, non l'ha manco iniziato, dimmi Francesco, dimmi. Allora, no, no, ho cambiato subito idea. Hai cambiato idea, sì. Allora, idea. In un quarto d'ora hai cambiato idea. Vabbè. No, no, aspetta. Voglio fare abbattire. Tu non fai, ma non fai abbattire nessuno, questo è il punto. Sei matto nel senso tu. Che, o sai chi, o sai la sera chi prego io come professore? Vorrei che lo mettessero in tutte le. Nel calendario sì. Dei santi. Chi? Chi? Chi? Diego chi? Fusaro. Diego Fusaro. Diego Fusaro. Ma non lo fai a mattire, Parezzo, ti considero un matto. Cioè ti considero un pirla, certo. Ti considero un matto. Non vado ai matti. Secondo me Diego. No, non sono matto, io preferisco il filosofo Diego Fusaro che è una grande persona. Sì, sì, ma infatti lei chiama la zanzara, ma guardi che tutto torna, io non trovo incongruenza in questo suo comportamento. Lei telefona qui e ama Fusaro. Tutto chiaro. Fusaro dovrebbe prendere il suo posto. Ma di chi? Sì, può essere, no, certo. Questo no, certo, questo no, assolutamente certo. No. Scusa. Ci mette certo, un'ora a esprimere un concetto, ma poco male. Il tuo collega Giuseppe Cruciani è molto più competente di te. Ma adesso questo lo può ripetere in termini di coronavirus. Po- no, ti prego. In termini di coronavirus. Può ripeterlo. Che sei convinto no, no. Che Cruciani odia la competenza. No. Cruciani odia allora la competenza. Quindi può ripetere questa cosa della competenza per no, piacere che è molto insistente. A voglia. Sì. No, no. Lo ripeta. Giuseppe Cruciani è competente sul coronavirus. Le persone io non lo molto sono. Dirette. Io ammetto che non sono competente sul coronavirus. Lo ammetto. Non sono competente sul coronavirus. Non glielo fare ripetere. Dai, ti prego, Davide. A lei cosa piace a lei? Sentiamo. Mi piacciono le persone dirette come Giuseppe Cruciani che dirette. Spaccano legna. Allora se io adesso a gamba tesa. Ecco, se io adesso la mando a fare in culo per le cose idiote che ha detto, mandami a fare in culo. Questo probabilmente le creerà più simpatia nei miei confronti, cosa che io peraltro non ho alcun interesse a avere la sua simpatia, capito? Ma ci vuole l'insulto no, intelligente, sa perché cos'è il fatto essere. Se lei dice che Cruciani è molto meglio di me, a voglia. Io le voglio bene per tu lo sei, può ripetere? Allora, io le assicuro che le voglio bene per sì, sì, sì. Il Barcellona Pozzo di Gotto e Giuseppe il Barcellona della perfetto. Liga. Quindi a lei piace moltissimo Cruciani, giusto? Sì, a voglia. Grazie. A voglia, perché grazie. È l'unico che non lecca il culo a nessuno. Non ho altro da aggiungere. Ciao. Non ho altro da aggiungere, grazie, grazie. Allora, voglio segnalare un tweet del professor Pope Alessandro Meluzzi. Avremo tra mamma poco mia. Pattuglioni di sardine, mamma migranti mia, illegali e grillini mamma falliti. Mia. Come ronde militanti per le strade, siamo tra il mamma fascismo, mia. Le guardie rosse cinesi e il caudiglio venezuelano sì. Maduro. E l'ora che intervengano la NATO, la Corte dell'Aia per difendere il popolo la italiano. NATO, adesso sì. Posso la dire NATO. Una cosa all'amico Meluzzi? La NATO per un gruppo di pensionati di guardia civica di 60 anni, cassa integrati, che devono andare con una pettorina blu a dire semplicemente scusate, non fate assembramenti. Questo è il pensiero di Meluzzi. Ecco, posso dire all'amico Meluzzi, Meluzzi che la Corte dell'Aia e la NATO, perché ha un signore che fa anche il ministro, è venuta l'idea che non verrà applicata perché già sono contrari tutti, non ha avvertito nessuno, di chiamare delle guardie civiche 60.000, poi presi chissà, è una puttanata inaudita e mi sembra un tantinello esagerato. Noi. Victor da Como, dai, Victor. Alessandro I, primate shalom, della Chiesa autocefala. Shalom, caro. Dimmi, shalom. Dimmi. Dottor Parenzo, lei è veramente il faro che illumina il buio di questa trasmissione. Grazie di io sono Parenzo primo, primate della Chiesa, madre della Chiesa. Noi. Dottor Parenzo, in breve, volevo porle una mia considerazione. Parenzo, primate, chiamatevi primate. Primate della Chiesa autocefala della Zanzara. Primate della Chiesa autocefala della Zanzara. Volevo porle una mia considerazione. Mi dica, caro, mi dica. Ha notato anche lei che il suo collega ha una certa predisposizione a prendersela sempre con i più deboli, in particolar modo se sono ragazze. Sì. Ma è sempre bravo. Così. Ma che cazzo bravo. Dici? Le donne, sì, che sei impazzito. Facciamo un esempio. Ma tu sei un criminale. Si ricorda Carola Rackete? Si ricorda come si è scagliato, sì, come no, sulla bravo, povera Rachete. Poi che io l'ho criticata mica perché donna, l'ho criticata semplicemente per quello che diceva sulla questione. Ottima osservazione. Ma mi faccia finire un cazzo. Addirittura minorenne. E adesso Aisha Romano. Aisha Romano, ma che c'è? Aisha Romano io la critico, non per se la prendono tutti come un branco di iene, la zanna molto bravo. Ma un branco di iene cosa? Ma non ho capito, perché non si può criticare, non si possono criticare gli atteggiamenti pubblici di una persona, non ho capito. Bravo, non si possono criticare. Mi ricorda che una volta ero liberale, Porro, giustamente. Bravo, Victor, che cazzo vuoi? Io non attacco mai nessuna donna, anzi penso che le donne, penso che le donne siano di gran lunga anzi un'altra cosa, ecco, penso, allora, che l'uomo è da sempre sottomesso qua alla donna, l'uomo è da sempre schiavo e sottomesso. Peccato che in questo caso si tratta di donne con le palle che vogliono far valere i loro ideali. Chi se ne frega se sono uomini o donne, me ne sbatti i coglioni. Chi va a aiutare in Africa? Ma per carità, e cosa succede? In per Africa, questo, non fare un cazzo per quello Africa, che dai, fanno per i loro ideali, si prendono le prime pagine. No, allora, aiutare l'Africa mi sembra una parola grossa. Diciamo, soddisfare delle esigenze personali e andare ad aiutare dei bambini. Non è aiutare l'Africa. Aiutare l'Africa è una parola grossa, amico mio. Aiutare l'Africa. Per stare in televisione, cosa deve fare per stare in televisione? Deve fare delle sonore marchette televisive. Vabbè, ma questo lo può dire Parenzo, coglione, lo puoi dire tu, non sai un cazzo, dunque non c'è nessuna marchetta televisiva che faccio, sono pagato per prestazioni professionali, imbecille. Per continuare ad avere la tua trasmissione, per andare in televisione con i tuoi amici. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. La Zanzara. Possiamo potare gli alberi o una siepe, o possiamo prendere appunto le fogliette per fare il nostro basilico, il nostro pesto, senza ledere i diritti delle piante, perché lo facciamo rispettando la sua fisiologia, cosa che insomma istintivamente per esempio nel caso del basilico facciamo. Quindi su questo sarei tranquilla, ecco, possiamo ancora mangiare il pesto. E quindi senz'altro devono avere il diritto di vivere, poi per esempio nel caso dei diritti legali devono avere la possibilità di difendersi da chi le abusa, non devono essere rotte o usate per scopi ludici le piante. Quando noi usiamo una pianta, quando noi cogliamo qualche cosa, noi uccidiamo un essere vivente, uccidiamo una creatura straordinaria che è capace di fare cose incredibili, molte delle quali ancora non conosciamo. In nel 1924 si riparavano gli orrori della prima guerra mondiale. Nel 1948 con i diritti dell'uomo, quelli della seconda, no? Della Shoah, dell'Olocausto, eccetera. Quando si è cominciato a parlare dei diritti degli animali, eravamo in pieno sviluppo di questi orrori che sono gli allevamenti intensivi, si cominciavano a scoprire la vivisezione e tutte, diciamo, le sopraffazioni dell'uomo sul mondo animale e così via. C'è una guerra ancora più subdola, più sottile, molto più pericolosa, che si combatte da tanto tempo, che l'uomo combatte non contro i suoi simili, nemmeno contro gli animali, ma contro le piante. Fa miliardi di morti. Allora, caro Parenzo, quando mi hanno segnalato questo che tu hai appena ascoltato, questa serie di audio ascoltato, io non ci potevo credere. Perché dicono, perché mi hanno detto, guarda che su Radio 3, che pure, per carità, benissimo, c'è un amico che la dirige, va bene, c'è una signora che sta parlando di diritto delle piante. Diritto delle piante. Ma questa è una storia antica. Non è una storia antica, amico mio, perché quando una dice le piante vanno rispettate, il cazzo. Posso risponderti in maniera molto semplice? Le piante vanno rispettate. Questo grandissimo cazzo, detto anche in maniera molto esplicita. Ma cosa va rispettata le piante? Certo, non è che si può devastare un prato. Cosa vuol dire? Questo è chiaro. Non è che si possono strappare le piante a cazzo di cane. Come c'è il diritto degli animali, ci sono i diritti delle piante. Cioè tutelare la natura. Non mi sembra una cosa così sbagliata. Le piante sono degli esseri viventi, no? Ma tu sei impazzito, se non gli dai l'acqua non crescono le piante. Ma ragazzi, ma io veramente non lo so, Algero, Brasile, volete intervenire? Tutelare la natura va a nostro vantaggio, questo ma questo ha detto che fa fatica a togliere delle foglie di basilico, amico mio, che fa fatica a togliere delle foglie di basilico, questa qua è una scrittrice, si chiama Alessandra Viola, ma tu ti rendi conto o no? Ma io l'abbraccio, per carità, ognuno ama quello che vuole, ma come si fa a dire che uno fa fatica a togliere delle piante di basilico, amico mio, dai! Pazzesco, ragazzi, su, è una cosa assurda, dai, su. Ma ce l'abbiamo, perché ho delle novità sul coso, Algero, là, Algero, quello che fratelli, ho fatto il botto, ce l'abbiamo, dai, rimandiamo, dai. C'è un problema. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, glieli giri qua, fratelli, così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, fratelli. Oggi do anna così, raga, se vi siete salvati la diretta siete miardari, fratelli, ho preso il muro, non ci stanno problemi, fratelli, è questo, è così, è 17:27, è così. Posso dirti che il mitologico 17:27, un ex rapper di 23 anni, come noto a questa trasmissione, però l'ha pagata un po' cara, patente ritirata e auto sequestrata, amico mio. Ritirata quasi a vita, direi. Dell'ordine. Ma ti credo. Minimizzavi sempre. Ma no, ma che dicevi, minimizzavo? Ma che cosa vuoi che sia? Un criminale che si fa un video e che va a 110 km all'ora in città e poi fa fratelli, ma che è un criminale? Mirko dall'Aquila, chi c'è? Fratelli, Mirko l'Aquila, vai, Mirko. Mirko, vai, dimmi. Oh! E dai. Allora, noi abbiamo avuto anche noi terremoto all'Aquila, abbiamo passato tutti in crisi, no? Però quando ai tempi nostri, quando fa il terremoto, quando era Berlusconi, perché il governo era Berlusconi, te lo giuro, a fine mese, fatto il terremoto a 9 aprile, a fine mese, a 28, mi sono presentato alla posta con la carta di identità e ho preso il stipendio subito. Ma tu che sei qua, albanese di origine, che sei? Sì, albanese, sto al ristorante. Ma che fai? C'è un ristorante, un ristoratore, sì. Ristoratore, questi qua hanno fatto un casino, non abbiamo preso la casa di reazione, fanno propaganda tutti i giorni, non uscite, attento qua e là, e qua soldi non viene nessuno. Io ho da pagare i dipendenti perché non posso lavorare da solo, parlano sempre e non fanno niente. Vai, dovresti andare direttamente fuori dal coro domani, credo, ospite. Ma, direttamente sì a fuori dal coro, devo andare per fuori domani perché anche, sì. Anche, vai a fuori dal coro, vai a fuori dal coro dell'amico anche, Giordano, anche Giordano, anche Giordano, devo parlare con lui perché anche Giordano, una anche cosa, Giordano, una cosa incredibile, sì. Qua troverà, no, perché, sì, non, sì, troverà non spazio, piace sicuro, non perché mi piace Giordano, perché anche Giordano quando era Di Maio allo studio non strillava, stava tranquillo, stava proprio caduto. Allora, la sintesi di questa cosa qua, Mirko, che è un ristoratore abbastanza incazzato dell'Aquila d'origine albanese, cosa sostiene? Sostiene che sostanzialmente non riescono più a fare un cazzo, anche se formalmente hanno riaperto, la gente non ci va. Le disposizioni di sicurezza sono eccessive e dunque la cassa integrazione magari per i dipendenti non è ancora capisco arrivata, la difficoltà, e dunque è incazzato nero, devono, e ha ragione, ha perfettamente ragione questo, figuriamoci. Poi la televisione oggi pomeriggio, televisione, che è successo, parlo a Durso, diceva attenti là, attenti qua, ma che lascia la gente libera, lascia. Io ho rispettato tutte le regole, cioè i tavoli di un metro, quattro metri di distanza, perché il locale è grande, però la gente ha paura perché sente tutti giorni, sento queste propagande di televisione, parlano, sì, perché soprattutto in alcuni posti non c'è un cazzo, amico mio, questo è il punto fondamentale, in alcuni posti non c'è un cazzo. All'Aquila non c'è un cazzo, veramente all'Aquila non c'è un cazzo. Ciao nessun Mirko, modo, ciao, abbraccio. Allora, esponenti delle forze dell'ordine mi scrivono dia Parenzo, a quel fenomeno di Parenzo, che se facessero davvero questa stronzata, esponenti importanti delle forze dell'ordine, se facessero davvero questa stronzata degli assistenti civici, le forze dell'ordine avrebbero l'unico compito di intervenire per soccorrere i civici malmenati, capito? Questo è il punto fondamentale. Malmenati? Perché sì, perché magari beccano qualcuno e si pigliano una pizza in bocca, fai questo, fai quest'altro, ma chi sei l'assistente civico? Te li metti nel culo, te l'ho detto alla Sgarbi, te li metti gli assistenti civici, non li vogliamo qui, non li vogliamo questi pretoriani del governo assunti da Boccia per rompere il cazzo alle persone per strada, chiaro? Mi può rompere il cazzo un poliziotto, mi può rompere i coglioni un vigile, mi può rompere i coglioni un carabiniere, non mi può rompere i coglioni uno assunto da Boccia dal governo con la pettorina ma assistente civile. Ma nessuno ti rompe le mani, infatti nessuno ti rompe le no, scatole, no, mi può rompere i coglioni, questo, certo, nessuno. Sono stati multati l'altro giorno, non so dove, a Pavia, due fidanzate che si sono baciati per strada, ma che roba è? Sono stati multati perché dicono che non, le disposizioni prevedono che uno, se non convive, non si può baciare. Ma che roba è? Ma insomma, ragazzi, ma saranno piccoli casi, naturalmente. Ma pensa a questi qua bloccati, ecco, da un assistente civico. Non ti puoi baciare. Ma chi cazzo sei? Ma vai a fare in culo. Tu e l'assistente civico. Dai, su. Ma basta con questa storia. L'assistente civico o civile, non so come cazzo si chiama. Andrea, provincia, no, di Roma. Dai. Adesso si chiama guardia civica. Dai, ma che guardia civica? Dai, dimmi Andrea, dimmi. Sì, cioè, vabbè, io hai sfondato una porta proprio aperta, perché questa mattina ho avuto una discussione con chi? Brutta, sono stato minacciato da un dirigente di Palazzo Chigi, perché ma io... che dirigente, ma quando mai, dai, non diciamo, sì, sì. Dirigente di Palazzo Chigi che ti ha minacciato, ma dai, ma un segretario politico del presidente Conte si è presentato con tanto di nome e cognome che non voglio fare, va bene. Ma perché, ma minacciato per cosa, perché ti dovrebbe minacciare? Ho semplicemente chiesto. Detto, ho appreso adesso dal TG5 che è stato assumendo 60.000 persone per pattugliare la movida e tenere. Ho detto, noi che siamo guardie giurate, che cosa facciamo? Ancora queste guardie giurate? Beh, non è che adesso volete essere assunti come voi, come pretoriani del governo, le guardie giurate? Noi non vogliamo un cazzo da nessuno, ho semplicemente fatto una domanda. Questa persona mi ha risposto. Dove sta scritto? Io dicevo, no, guardi, l'ho sentito a poco. Vabbè, ti sei messo a litigare con uno di Palazzo Chigi? No, non ho litigato, non ho assolutamente litigato. Al momento che poi mi diceva... scrivo al presidente Conte, ho detto, guardi, ho scritto fino a ieri mattina, perché sono tre mesi che stiamo senza perché lavoro. Perché tu sei una specie, diciamoci la verità, io adesso t'ho riconosciuto, tu sei una specie di stalker delle persone, rompi coglioni alle persone, ecco, per carità, anche legittimamente, però rompi coglioni alle persone finché non ti danno un'ospitata, finché non puoi ma dire no, la tua. Ma sulle cose giuste, io rompi coglioni, le cose io giuste, posso rompere i coglioni a te. Se tu comunque mi aggredisci, a un certo punto io mi sono sentito dire da questa persona, perché io giustamente quando io non lo so cosa è successo tra di voi, non me ne può fregare, devi, amico mio, pensa adesso, non è che puoi passare il tempo a rompere i coglioni alle persone via internet, ma io non devo rompere i coglioni a nessuno, WhatsApp. Ma al momento che faccio una domanda, cioè era tranquillamente mi poteva dare una risposta, dire, vabbè, non lo so cosa è successo, non lo so cosa è successo, se è stato io sto spiegando, se me lo fa spiegare io lo spiego, ma chi se ne frega della tua conversazione con un funzionario di Palazzo Chigi, scusa, ragiona un attimo, dai, abbi pazienza. Ma scusami Cruciani, ma sono 70 giorni che noi non lavoriamo, cazzarola, siamo in mezzo alla strada, ci abbiamo io, ma noi abbiamo ma scusa però le guardie guardie giurate non ho capito perché non lavori le guardie giurate, non ho capito perché siamo fermi, perché noi i contratti stiamo cominciando a rifare, ho capito, ma adesso ripartirete le guardie giurate, perché infatti okay. mi dovrebbero dare i soldi. Cruciani, hai detto una cosa giusta, ma viene un ausiliare, questo signore, no? Allora abbiamo difficoltà questi non li pagano queste guardie civili? Questi non sono pagati, sono quelli che beccano il reddito di cittadinanza o sono in cassa integrazione. Ma quando è un noi modo andiamo per... a pattugliare le spiagge di Rimini, ma sai che cosa significa tenere botta con 2000 persone? Ma questi non devono pattugliare proprio niente, questi e qui, che non cazzo devono fanno pattugliare, allora, se non hanno un ruolo non ho civico ma di che avvisire, dire? Guardate. Ma qui se non c'è troppo assembramento, ma chi se l'incula? Potete per cortesia, ma come chi? Senti, allora, scusami, allora posso farti lui una domanda? Quando ci sono i nonnini che aiutano i bambini ad attraversare le strade davanti alle scuole, tu cosa fai? Tiri dritto e tiri sotto il vecchio? No, lo ascolti, no? È la stessa funzione, è la stessa cosa, ragazzi. Un nonnino ad aiutare, ma che c'entra quello? Dai, quello dovrebbe dire questo si fa o questo non si fa, ma chi sei con la pettorina blu? No, dico il nonnino che si mette la pettorina e ferma il traffico per far passare i bambini che vanno a scuola, ragazzi, ha nessuna funzione, Andrea, di pubblica sicurezza. Si è iscritto ufficialmente al partito No Mask Paolino Becchi, il professor Paolo Becchi dell'Università di Genova. La mascherina è come il preservativo. L'odore delle piante, dei fiori, della natura, il virus, no, non lo vedo, dov'è il virus? Il virus, non lo vedo il virus, la paura del virus, non posso più uscire, ho bisogno di questa, è il nuovo preservativo del secolo contro la HIV, ha funzionato il preservativo in basso. E ora però sulla faccia bisogna mettersi questo e, come ha detto Zingaretti ieri, ma sarà la moda dell'estate e la dovremo tenere questa cazzo di mascherina fino a che troviamo il vaccino. Ma il vaccino sull'HIV l'abbiamo mai trovato? No! Ma in questo caso questo cazzo di preservativo me lo dovrò tornare di fronte alla bocca per i prossimi 20 anni perché non ci sarà il vaccino? Ah, ma Zingaretti ha scoperto il problema. Non c'è il vaccino, ma potremo tanto obbligare tutti, quelli che hanno compiuto 65 anni, cazzo, li compio tra pochi mesi, a farsi vaccinare. Non importa, un vaccino ce l'abbiamo, facciamo quello anti-influenzale e lo mettiamo obbligatorio a tutti, così quelli che hanno 65 anni in poi, dopo l'esperienza che c'è stata a Bergamo, che hanno vaccinato tutti, moriranno se arriverà un altro virus. Poi a un certo punto tenta di bruciare la mascherina. La brucio. Ce la devo fare. A bruciare questa cazzo di mascherina. Io la brucio questa cazzo di mascherina. Non la voglio vedere questa cazzo di mascherina. Basta! No, il virus non è entrato nei polmoni. Il virus è entrato qui, nella nostra cazzo di testa. E io me lo voglio levare questo virus. E mi voglio levare questa cazzo di mascherina. Ecco la vostra mascherina del cazzo, che non riesco neanche a bruciare. Ma la brucio, la voglio bruciare questa mascherina. Questa mascherina, non mi aiutate a bruciare una mascherina. No, non riesco a bruciarla. Perché magari resiste al fuoco la mascherina. Chiamiamo, ti prego. Essendo fatta a normativa europea e ignifuga, quindi è anche sciocco. Chiamiamo. Mamma mia. Pronto? Paolo? Sì? Sono Cruciani, come stai? Abbastanza bene, non lamentiamoci, cosa vuoi che ti dica? Sei sempre scatenato, hai cercato di bruciare addirittura una mascherina. Ma sì, ma no, perché cosa vuoi che ti dica? Quando c'era bisogno delle mascherine, non c'erano le mascherine, anzi ti dicevano che non servono a niente. Adesso per un po' di tempo ti hanno detto che vabbè, è importante mettere quanto entri nei negozi, quando sei al chiuso va bene. E adesso a Genova mi si dice che devi addirittura portarle quando giri per la strada. Ma io ho detto, ma questa è pura follia, mi sembra una cosa allucinante. Ci sono 28 gradi, un caldo pazzesco, si sta benissimo. Io con questo cazzo di occhiali mi si appannano immediatamente, non ci vedo un tubo. Ma hanno detto che ci vogliono delle cose, mascherine speciali per quelli che hanno gli occhiali. Ma dico, ma cosa, io mi compro la mascherina speciale per via degli occhiali? Ma voi siete pazzi. Hai cercato di bruciarla addirittura, cioè per te sono totalmente inutili. Adesso sì, in questo momento qui sono una pagliacciata e non c'è più il virus e io mi devo mettere la mascherina. Ma chi ti ha detto che non c'è più il virus? Ma sei una tragedia umana. Sei una tragedia umana. Sei una tragedia. Fammi sentire. Non capisci letteralmente un cazzo. Quindi pensa, disse fammi sentire Paolo. Scusa, non servono un cazzo. Ma come fa a dire che non servono? Ma è un medico, era un filosofo del diritto, ora è pure medico. Ma che dite, ragazzi, su. In assenza di virus non serve. Ma chi ti ha detto che non c'è il virus? Chi ti ha detto che non c'è? E te lo dico io, sei tu che te lo sei infilato nella testa, non nei polmoni, e non te lo leveranno più. È sparito. Fammi sentire. Il virus d'estate di solito sei una testa di cazzo. Spariscono i virus, capisci? È normale. Sei tu che sei anormale nella tua mente. Quindi non esiste più il pericolo del contagio. Disse Becchi che non è un medico, ma è uno stronzo qualunque. Sì, io sarò uno stronzo qualunque, ma tu sei una testa di cazzo. Sì, questo va bene, ma non cambia la sostanza. Uno stronzo e una testa di cazzo di virus non sanno nulla. Adesso, quindi taci. Taci e parla di filosofia del diritto, semmai. No, voglio capire una cosa, Paolo. Non ho capito. Per te il virus praticamente non esiste, dunque questa cosa delle mascherine è un'imposizione. No, ho detto che è finito, la carica del virus non c'è più. È normale, i virus cominciano, hanno una certa diffusione. Dunque, d'accordo. E dunque a che servono le mascherine adesso? A imporci delle regole? Servono a qualcuno per fare dei soldi? A che servono? Ma no, ma è chiaro che c'è una strategia dietro, no? Qual è? Quello del stato tecnico scientifico, no? Non l'avete capito? C'è il tentativo proprio di vedere, sai quando fai quegli esperimenti dei mobili dell'IKEA che a un certo punto dici mi faccio vedere il punto di soglia quando il mobile pacca, no? Stanno cercando, perché lì ci sono delle persone intelligenti, di sondare qual è il punto di rottura. Mamma mia. Il popolo italiano è così coglione che li possiamo far entrare in ma questo qui ha pure insegnato all'università. Lì ci sono delle persone che stanno studiando questo. Mamma mia. Sono dei medici. E guarda, i medici hanno avuto sempre una funzione. Medici e scienziati, eccetera, hanno avuto durante il periodo del nazionalsocialismo questa funzione qui i medici. E loro stanno sperimentando. Stanno sperimentando delle cose sugli italiani come fecero i medici durante il nazismo. Più o meno, anche se lì era molto più... Ma sei pazzo, sei? Ma per fortuna non insegni più all'università, ormai deliri. Ma paragonare i medici ai nazisti, deliri ormai. Deliri. Ormai deliri. Su un popolo intero, esperimenti sociali. Esperimenti sociali. Fino a che punto un popolo può essere esperimenti schiazzato. Sociali. Cruciani, poi digli qualcosa. Potevi, sto qua, ma prima voglio non dire. Ma che aspetta, fammi sentire. Prima. Prima non potevi uscire di casa, adesso ti facciamo uscire di casa, ma con i guanti, con le mascherine, con tutti i preservativi possibili. La mascherina oggi equivale allo chador islamico, al velo islamico. Io non me lo metto, va bene? Non me lo metto. Dunque anche il vaccino secondo te è una roba terribile, cioè anche il vaccino è una roba di imposizione. Tu te lo farai il vaccino se verrà fuori o no? Ma col cazzo che mi fa. Ma il vaccino che senso auguri, ha? Allora. Il vaccino non potranno dicendo? Più trovarlo perché il virus ma non c'è più. Ma che dici se hanno isolato? Ma vedi che non sai un cazzo. Ti metteranno il vaccino influenzale come quel coglione che ha detto, per sicurezza. Sicurezza, quelli che hanno 65 anni gli faremo fare il vaccino anti-influenzale obbligatorio e col cazzo perché io mi faccio il vaccino obbligatorio a 25 anni. No, quelli che sono morti a Bergamo sono morti perché erano vaccinati. Beh, no, questo è grave. E non avevano più difese immunitarie. Cioè, tu sono morti per una delle ragioni è questa. Cioè, tu stai dicendo che quelli morti a Bergamo sono morti perché avevano fatto il vaccino antinfluenzale? Ma come ti permetti? Molti sì, perché gli hanno diminuito il sistema immunitario. Ma tu non erano sei un medico, sei un pirlotto. Ma tu non sei neanche un medico. Ma di che cosa parli? Ma tu devi sei un miracolato dell'università italiana. Pare, tu. Anche tu puoi, ma tu non hai su questo tema alcuna competenza scientifica. Ma può dire quello che vuole. Di zero. Del zero. E infatti non mi permetto di dire castronate come il fatto che il vaccino non serve a nulla. Non mi permetto, perché beh, la scienza mondiale dice che... Ma uno può dire che cosa? Il vaccino per questo virus non ha più senso perché non c'è più il virus. Ma chi te l'ha detto? Come fanno a trovare il vaccino? Come fanno a lavorare il vaccino se non c'è più il virus? Dai. Però scusami, io posso dire una cosa. Dire sì all'apertura dei bar e poi stupirsi se la gente, giovani, che non hanno, hanno pochissime possibilità di infettarsi, prendono l'aperitivo come cazzo vogliono. Dunque Becchi dice viva la movida, uscite e fate il cazzo che volete. O no, Paolo? Ma adesso sì! Adesso sì, sicuramente non si, un mese fa o due mesi fa sarebbe stato folle, ma adesso in assenza di virus cosa bisogna stare? Ripeto, ad agosto andremo alla spiaggia con la mascherina. Ma nessuno ha detto che il virus è sparito. Nessuno ha detto che il virus è sparito. Andremo a spiaggia con la mascherina, ma è da pura follia. Tra l'altro la mascherina, ti dirò di più oggi, è nociva, perché io l'altro giorno cazzo sono uscito con questa mascherina, a un certo punto avevo mancato il respiro, mi sono dovuto fermare su un muro perché non riuscivo più a attaccare a un muro, perché non riuscivo più a camminare, non riesci a camminare. Scusa, stai dicendo delle fregnacce, stai dicendo delle fregnacce rare. Scusami un attimo, ma gli assistenti civici che vogliono mettere, che cos'è questa roba qua? Cioè tu dici che è un ennesimo tentativo di controllare la gente, eccetera, eccetera, ma le ronde civiche, gli assistenti civici. Ma questa di nuovo è una pura follia. Non so se vi ricordate ai tempi delle ronde civiche, quando alcuni di cittadini dicevano c'è troppa criminalità la sera, di notte. Ma quella era un'altra cosa, ma che c'entra? Erano un'altra cosa quelle. Erano punto, non riconosciute, erano cose non istituzionalizzate, ci sono follie. Sono le forze dell'ordine, ci pensano loro. Sì. E adesso le forze dell'ordine non bastano più, bisogna assumere, magari volontariamente, magari anche non pagate, 60.000 persone, ma ci rendiamo conto? Queste cose succedono soltanto in un paese di cacca, con un governo di cacca come il nostro, in nessuna parte del mondo. Beh, forse, il virus forse ha toccato parti nevralgiche dell'intero pianeta, ma coglioni come noi non c'è stato da nessuna parte del mondo. Ci voleva lui. Cosa ci voleva lui? Cosa ci voleva lui a governare? Pensate, ci voleva lui a governare il Covid. Lui ci voleva. Ah, certo, lui, il professore di filosofia del diritto dell'università. Certo. Avrei preso il modello Israele. Ciao, ciao. Perché sei un ebreo, dovresti sapere conoscere il modello Israele. Lo conosco perfettamente, certo. Ciao Paolo. Ciao Paolo, abbracci. Ciao. Ciao ciao. La Zanzara. Barisoni gay. Eccolo. Comunque scrivere Covid free davanti agli hotel serve come? Attira tutti i turisti che vuoi, per lo stesso motivo per cui i crucchi, ma non solo, gli americani, i canadesi, tutti gli stranieri che capiscono un cazzo dell'Italia comprano parmesan made in Italy, anche se con l'Italia non c'entra un cazzo. Quindi continuate a parlare di figa, pelo, squirting, buce di culo, quello che vi pare, ma di economia non capite un cazzo, quindi tacete per favore. La gente si domanda quanto durerà questa pandemia, Renzi farà cadere il governo, il campionato di calcio quando riprende? A me interessa una sola cosa, ma Stefano lo prende nel culo, sì o no? Crux, richiamalo, ho bisogno di saperlo. vorrei in un minuto lanciare tre appelli, perché io sono veramente terrorizzato. Numero uno, mentre noi chiacchieriamo ci sono 2.600.000 lavoratori che avevano diritto alla cassa integrazione e non l'hanno ancora ricevuta. Due. Seconda preoccupazione, guardate che la gente si arrabbia per la misura più attesa del decreto rilancio e che diventerà, temo, una tragica delusione, che è quella delle risorse a fondo perduto, che era la cosa su cui scommettere di più. Tre. E allora arrivo alla terza preoccupazione. Vi prego, prego soprattutto la maggioranza, segnatevi queste date. Il 16 settembre arriva la follia, la botta fiscale, quando le imprese dovrebbero pagare tutte le tasse rinviate da marzo, aprile, maggio. È impossibile. In quel momento scatterà uno tsunami di fallimenti e licenziamenti. Ma è un porta sfiga di prima categoria, ragazzi. Un menagramo di prima categoria proprio. Uno. Comunque, ragazzi, la cosa incredibile è anche un'altra. È che c'è stato uno studio di Harvard. Che poi uno dice: ci voleva uno studio di Harvard per arrivare a certe conclusioni? Le persone infette. Senti, le persone. No, ma senti qual è la conclusione di questo studio dei signori di Harvard. Le persone infette possono diffondere le loro secrezioni respiratorie sulla loro pelle e oggetti personali da cui il virus può essere trasmesso ai partner sessuali. Ma che roba è? Ma che studio è? Ma che le implicazioni sessuali della pandemia SARS-CoV? Sembra la zanzara, anche ad Harvard hanno fatto queste robe qui. Noi è mesi che ne dibattiamo delle implicazioni sessuali. Studio scientifico, tu l'hai fatto. Ma con quale porcheria. Studio scientifico? Non dire cazzate, dai, su. Senti, quindi, sulla base di queste informazioni, tutti i tipi di attività sessuale con un'altra persona probabilmente comportano il rischio di trasmissione del virus. Ma grazie al cazzo! Ma di che stiamo parlando? Harvard! Sulla base di queste informazioni, tutti i tipi di attività sessuale con un'altra persona probabilmente comportano il rischio di trasmissione del virus. Ma scusa, ma chi è che non lo sapeva prima? Che i due corpi entrando in contatto, le due bocche, la vicinanza tra due persone può trasmettere il virus? Ci voleva uno studio di Harvard? Dai, che l'uso di tutte queste sostanze chimiche per decontaminare ci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato, delle belle reazioni, perché a furia di strusciare tutto con la Madonna, pulire, non pensare che è il disinfettante. Se noi ci mettiamo i guanti e poi con i manti tocchiamo la Madonna gli lasceremo quello che abbiamo dentro. Questo è Ippolito dello Spallanzani, credo che sia un primario importante, eccetera. Sì, che a un certo punto stamattina d'Agorà dice: se puliamo pure la Madonna dalla mattina alla sera, poi ci attacchiamo tutto. Numero uno. Era un po' scossa la signora Bortone di fronte. Basta strusciare tutto con la Madonna. Senti qua. L'ottima Bortone. Non abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi, luci, lampade, ozoni, madonne, robot. Abbiamo bisogno di una varichina ridotta, diluita 1 a 10, perché la probabilità, il virus viene sicuramente eliminato, facciamo cose che risparmiano. Allora, Claudio da Brescia, vai. Claudio, dimmi. Claudio da Brescia. Dimmi Claudio, dimmi. Ciao, ascolta Cruciani, io sono di Brescia. Sì, dove c'è stato, mi sembra, un piccolo assembramento nella giornata di venerdì o sabato, non mi ricordo. Bravissimo. Sì. Dicono, dalle foto, poi non si capisce bene la prospettiva, eccetera. Allora, eccetera. Bisogna dire le cose come ci sono. Effettivamente c'è stato. Quello che io dico è: così come c'erano poliziotti, vigili, carabinieri a controllare se andavi a fare la corsa sul fiume, se attraversavi la strada senza la mascherina. Adesso invece non c'è più nessuno. Il primo giorno hanno lasciato, comunque nel fine settimana per un giorno lasciano libero. Secondo me è quasi una strategia, lo sai? Cioè, praticamente il primo giorno lasciano tutto libero. No, il primo giorno lasciano tutto libero, così possono dire adesso interveniamo. Altra follia di oggi, il sindaco di Milano Sala ha detto da poco, in un'ordinanza concordata, non so con chi, col presidente della regione, che sarà proibito fare asporto dei prodotti alcolici. Cioè tu non puoi prendere una bottiglia di birra e poi andartene dal locale, che è una follia, perché invece si potrà consumare nei tavolini. Ma il problema non è quello, il problema è l'assembramento intorno al locale, non che uno prenda una birra e se la porta a spasso, perché andare a spasso è meglio. Tu sai che a Brescia c'erano stati stati dei... E poi le bibite le puoi andare a prendere invece al supermercato? Cioè al supermercato invece le puoi andare a ritirare, dice Sala. Ma dai, ragazzi, ma poi c'erano dei gestori che avevano chiesto di fare l'ingresso contingentato, quindi di mettere, non dico dei tornelli perché mi sembra molto da... da stadio, però potevano entrare nella piazza Arnaldo solo quelli che avevano prenotato il tavolo. A quanto sembra la cosa non è stata accettata. Vabbè, ma che vuoi dire tu sulla vicenda di Brescia? Che vuoi dire però? Scusa amico, tu sei un gestore, che fai? No, assolutamente, io sono un bresciano. Mi ha dato fastidio che il sindaco del Bono sia andato al TG1, è stata messa in piazza una città come se ci fossero tutti zotticoni, gente che non è capace di gestirsi. Hanno fatto un po' di casino là in piazza, dai, su. Ecco, ma poi siamo veramente convinti che queste cose portino un contagio, portino alla diffusione del contagio? Cioè, dai, possiamo non lo sappiamo, il problema è che un sindaco che va ed ha dei non capaci a gestirsi i suoi cittadini avrebbe dovuto invece pensare a mettere un cordone di controlli maggiore. Non c'è dubbio, va bene, Pasquale da Rimini, ho capito, Pasquale da Rimini, vai Pasquale, dimmi. Pasquale? Sì, eccomi. Dimmi Pasquale, dimmi. Pronto? Dimmi. No, niente, io volevo usare una parola che fino adesso non avete usato. Delazione. Dimmi se non siamo, no? In un momento che... Cosa c'entra la delazione? No, per gli assistenti, ecco, civici, per questa puttana. Per questa puttana. Non ti va bene questa parola. Tu hai l'obbligo, guarda che teoricamente... No, perché teoricamente parola, uno se vede... Non ti va bene. Se uno... No, sai perché? Perché se tu ad esempio assisti ad un incidente o una cosa che non funziona, hai l'obbligo di chiamare chi di competenza ma dai, e di intervenire. Ma ad esempio, altrimenti si chiama omissione di soccorso. Ma che roba è? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Tra questo come lo conosci bene, allora, siccome avere siccome delle persone che semplicemente che passeggiano e segnalano le cose che non vanno non mi sembra una cosa grave. Guarda, io dico sinceramente, in generale io non voglio in diventare generale. Ma questi qua vanno presi a calci nel culo, vanno, se vengono istituiti vengono presi a calci nel culo, devono essere presi a calci nel culo questi assistenti civici, a calci nel culo. Ma chi cazzo sono questi qui? Ma io te lo ma dico per quale motivo? Ma a me mi sta non bene, sono ma pagati, lo fanno per volontariato, ma presi da chi? Non dal sono governo? Pagati. Assunti dal governo, ma chi cazzo sono? Ma non dai, sono assunti perché non sono pagati. Non sono andati, continuate a fare disinformazione. Pasquale, fammi sentire Pasquale, dimmi. Che portavano da mangiare fino adesso agli anziani, negli ospedali, c'era troppo lavoro, ecco, c'era troppo lavoro. Ora ci vogliamo inventare che cosa? I difensori civili di che? No. Ma basta, ciao, state creando delle telecamere umane, andare in giro a far che cosa? I ragazzini che fanno gli assembramenti, questo è quello che si ma vuole quello fare. Ci deve pensare, quello ci deve pensare, ci deve pensare se vengono commesse delle infrazioni, la polizia, normale, i vigili urbani, i carabinieri, quello che è, non gli assistenti civici del cazzo, dai. Da Milano, vai Enzo, dimmi. Sì, ciao, ti volevo chiedere una cortesia, una cosa, come mai questo cazzo di virus è stato elevato a pandemia? La pandemia di solito è una selezione naturale, giusto? Giusto? Sanitaria, naturale, giusto? Cioè muore chi è più debole. E invece anche la seconda, qui, eh? È quella che stiamo assistendo adesso. Anche qui chi è più debole muore in generale. Aspetta un attimo, la selezione di che naturale cosa? Economica, la seconda, come mai? Cioè in che senso la selezione? Come mai te non ci speriamo sei che non muoiano. Con tuo amico Parenzo? Speriamo che non muoiano le attività economiche. E la prima ci potevi andare anche tu, eh? Ma che cosa? Che stai dicendo questo? Di che sta parlando sto mesi tutto finisce. Ma di che sta parlando sto Enzo? Io non dicendo. Ho capito. No, nessuno no, hai capito perfettamente. Cioè, cazzo, se siete comodi, amici. Nessuno ma è comodo. Noi stiamo voi. Lavorando e stiamo tutti guadagnando. Tutti comodi siete. Noi qua a scoppiare sono 4 mesi senza stipendio. C'è amico promesso... mio, ma io sono... Ma Enzo, ma prendo, non è che te la devi prendere, non è che te la devi prendere con chi lo stipendio lo prende perché lavora, perché... Ma ti piace il caos? Ti piaceva il caos o no? Ma cosa c'entra il caos? Ma cosa come, c'entra? Non ti piaceva il caos? Ma cosa c'entra? Ma il caos è un concetto generico finire, che non c'entra un cazzo. Ma cosa c'entra? Potevi finire dentro anche te, caldi. In eh? Che cosa? Tra 7 mesi, richiudi, riapre tutti presenti al bar dello tranco. Ma di che parla questo? Di quello di cosa che hai capito. No, non ho capito un cazzo, ma io non ho capito, hai capito solo tu. No, non riesco a capire veramente. Ma no, ma manco lui riesce a capire. Si presenta da 7 mesi cosa? La prima selezione, tutti ci hanno aiutato alla grande, no? È ok, ne siamo usciti, giusto? Ma ne siamo usciti, ancora non è detto, comunque, speriamo, sì. E la seconda siamo nella merda, amico mio. Certo, non c'è dubbio, siamo nella merda, molte persone sono nella merda, certo. Nella merda voi chi? Io non so manco chi sei, noi chi? Chi sei? Che mestiere fai? Che mestiere fai? Un ristoratore? Che fai? Che fai? Che sei? Un essere hai così indistinto? Comunque che non sono ricco come te, no? Come ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra questo? Ma cosa c'entra questo? Scusami. Se sei un imprenditore, che se hai un locale, una tabaccheria, ecco, cioè, sei rimasto chiuso, vai aiutato con i soldi in contanti. Cosa che questo governo i soldi. E prenditelo con governo, che cazzo vuoi da me? Ma da te, ma scusami, allora che cazzo fai o no sto cazzo di show? Io sto partecipando al tuo show. Ma tu stai partecipando alla tua cretinaggine, stai partecipando. Ma come cretinaggine? Non è cretinaggine, amico mio. Sto scherzando. Allora, il punto fondamentale è questo. Ma lascia perdere, ti piace il caos, su questo hai ragione. Ma lo sai o no che i giornalisti la prima e seconda guerra mondiale mi pigliavano il moschetto, andavano sul fronte. Voi che cazzo fate? Siete belli rinchiusi. E allora qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Che ti dà fastidio? Ti dà fastidio questa cosa? Il problema è questo. Che ti dà fastidio il fatto che abbia continuato a guadagnare dei quattrini, peraltro meno. Non c'è un cazzo di aiuto per noi. Noi siamo qua a scoppiare. Ma questo è negativo, capito? Che vuoi da me? Siamo ma lo dico dall'inizio che dovete avere i soldi in contanti, ma che vuoi? Un cazzo da te. Ma amico mio, ma è dall'inizio che dico amico, che bisognava distribuire soldi in contanti alle persone. Fai qualcosa, aiuta qualcuno, cerca di essere utile, come facevano i tuoi amici prima. Non ho capito, scusa, bisogna tolto una mezzo non ho capito, mi devi dire tu che cosa devo fare o cosa non devo fare. Come devo fare questo mestiere? E allora non mi rompere i coglioni, capito? Io faccio quello che voglio, dico quello che penso e questo è il massimo che posso fare, capito? E allora non sei vittima del populismo, vedi? Sei vittima del tuo populismo, come Cruciani, è rivolto. Stai parlando con me, non è che stai parlando con qualcuno. Che dicono che cazzo caldo, bisogna chiudere, bisogna stare attenti, ma cosa? Questo è un altro discorso, noi non ci muoviamo più, diglielo al tuo amico Parenzo. Questo è un altro discorso. Non ci muoviamo più. Questo è un altro noi. Discorso, questo capito? È un altro discorso. Che un ragazzo che ti rimona con la sbarbata prende 4 gambe di multa. Per giusto, me è terrorismo. Una follia, sì. Non esiste. Dovete ma quello deve fare tanto. Ricorso, ma l'abbiamo aprite detto prima, quello di piccolo scrigno dite. Enzo, l'ho detto prima, forse non hai ascoltato. Quel ragazzo lì che ha preso 400 euro, quello là doveva mandarlo a fare in culo, doveva mandarlo a fare. Più incisivo. Se io penso che vuoi da me? Ma questo è più incisivo, questo è pazzo. Che leccano il culo trans, che sborrano in bocca di quelli là e poi vanno in giro con le mascherine. Io vado fuori di melone, vado, capito? Se io penso che quelli che si fanno cagare in bocca dalle puttane ora hanno le mascherine in faccia, io rido. Ma cosa c'entra adesso? Ciao. La Zanzara. Da parenziano te lo dico, ma cosa devo fare per convincere la mia ragazza a fargli tenere il pelo? È una cosa impossibile, dammi una mano. Ciao Parenzo. È normale. Beh, amico mio, è un problema, certamente. Devi utilizzare un'opera di convincimento che per me è molto semplice. Cioè, puoi dire semplicemente no pelo, no, no ci, no pelo, no cazzo. Molto semplice la cosa. No pelo, no. E questa è un'arma importante, potrebbe essere un'arma importante. Giuseppe, proporrei no pelo, no parti, tanto per citare. No pelo, no parti, va bene, no pelo, no parti. È più leggero, diciamo, più moderato, diciamo, più soft. Allora, c'è un signore a noi noto, caro Parenzo, che si chiama Emi Schilla, un rapper noto, notissimo. frequentatore di questo bassofondo radiofonico, possiamo dire così, David, se c'è, sì, è presente, possiamo, sì, definirlo, possiamo definirlo così. Assolutamente il così, quale ha detto durante una sua diretta Instagram che a lui piacciono le donne femminili. A lui piacciono le donne senza pelo che non parlano come gli uomini. È stato, dispiace, preso d'assalto. Uno dei rapper preferiti da ma cosa mia c'entra? Figlia, ma cosa c'entra questo? Mi dà cosa un c'entra? Grande dolore. Ha detto cosa, che gli piacciono le donne sono femminili. Sono un esempio. Loro, ecco, mi dà grande dolore perché loro, in realtà, questi rapper, cioè, sono un esempio per le giovani generazioni. Quindi dovrebbero parlare un linguaggio non macista, capito? Un linguaggio che rispetti la donna e le ragazze. Ma quello che dobbiamo insegnare è a una sessualità anche consapevole. E ma quindi le nostre questo? Figlie devono volersi bene anzitutto. Ma ha detto che gli piacciono donne femminili. Ha detto che, no, che non parlino come gli uomini, senza pelo. Ma che ha detto? Secondo me si è un po' lasciato andare, ma mi dispiace, ci dialogherei volentieri. Lo chiamo, aspetta, vorrei lo chiamo, aspetta che lo chiamo, se no non lo becco più, che devo andare a registrare. Aspetta. Sì. Miss. Sì, eccoci. Come andiamo, amico mio? Ma sempre nei casini. Ma sempre nei casini, ti metti con ste femministe. Ma lo fai apposta per cercare la rissa con le femministe e con altre no, persone? Giuro di no, giuro di no. Parenzo, ma ti pare normale che uno non possa dire, non possa semplicemente che le piace, che a lui piacciono le donne femminili senza pelo e che non hanno, che non parlano come gli uomini, per essere praticamente aggredito da quattro pseudo femministe del cazzo? Cosa ha detto di grave? Volgarità, nulla. Una volgarità inaudita. Una bestia, senza voler offendere gli animali. Ma che dire che gli piace una donna femminile e non maschile significa essere una bestia? Ma che sei impazzito, sei? Cioè. Ah, è un modo un po'. Non ho capito. La cosa peggiore che ti hanno detto, Emis, qual è la cosa peggiore che ti hanno detto quando hai detto queste cose anche banali? Io non sono d'accordo sul pelo, per carità. Lo so, ne abbiamo parlato. Tu mi hai detto che vuoi peli ovunque, tu vuoi grizzly praticamente. Cioè, no, grizzly no. Però se un po' nelle ascelle e soprattutto figa, ragazzi, quella ogni tanto quando no, c'è. Allora, va fatta una premessa, esatto, bravo. Cioè, io non mi riferivo alla figa, quando dico peli a me non piacciono le ragazze appunto con i peli sotto le ascelle che non hanno cura di appunto di farti le ascelle sulle gambe, cioè quello era il mio sì. Però secondo me non tutti l'hanno capito, però vabbè ci sta comunque, cioè, ma nemmeno sulla figa ti piace però il pelo, però diciamo la verità, cioè, preferisco senza, sono sincero, a me le donne piacciono lisce, sì, però vabbè il punto non è questo, cioè ho i miei gusti e secondo me, cioè questo va scritto in stampatello, secondo me sì. Il sinonimo di femminilità non è una ragazza che smadonna, che parla come gli uomini, che non si fa i peli, eccetera. Come si è finiti? Sulla radio della Confindustria che in genere si occupa di Ursula von der Leyen, a te piacciono i piedi? A parlare di peli. A te piacciono come i piedi, Emis? I piedi piacciono o no? Certo, sì, come no, voglia. Cioè un piede brutto ti fa un po', un piede brutto ti fa un po' inibire. Io per esempio davanti a un piede brutto ogni tanto mi tiro indietro. Sì. Cioè, guarda, io dico sempre che per come la vedo io, anche qua bisogna mettere mille paletti. Vabbè, perché ma non ti dire di no. Ma sì, però ma come dire, mi fa più, cioè, come dire, mi piace meno una donna che ha dei brutti piedi rispetto a una che magari non ha le tette o non ha il culo, cioè per me il piede bello è importante. Ecco qua. Cioè, giusto, ecco. Giusto, cioè meglio ecco un piede qua, bello ecco, che una tetta piccola, dici, no? Cioè sì, ma perché cadiamo sempre lì, perché secondo me il piede bello è il piede femminile, che è curato, che è smaltato, che insomma, cioè non può essere smaltato, dipende, può anche non essere smaltato, basta che abbia le forme giusto, basta che non abbia per esempio quella cosa orrenda che è la cipolla, cioè la cipolla no? Sì, deve essere arcuato, non deve essere piatto, sì, bravo, però capito, anche lì sono tutti, cioè poi adesso salterà fuori qualcuno che dopo questa chiamata mi chiamerà dicendo oh, io c'ho i piedi come lo Hobbit, e come sti cazzi, ti vabbè, ho capito, non mi piace cioè se io te li guardo mentre sto scopando con te, mi devo voltarmi dall'altra parte, a me questo è successo, ora ti giuro, questo che interesse ha rispetto alla crisi dei mercati, reale, allo è la vita spread, reale, che scusa, interesse ha a me è successo una volta, ti giuro, di dovermi, l'ho detto più volte, di dovermi girare dall'altra parte perché stavo con una che aveva i piedi con la luce valgo. Se non mi giravo dall'altra parte non riuscivo, cioè non riuscivo. Ma perché ci sei stato allora? Perché ci sei andato? Ma ci sono andato perché poi alla fine fai prevalere altre cose, cioè poi oppure te ne accorgi dopo, cioè oppure perché te ne accorgi. È un assatanato. Oh. Senti, è però c'è un'altra questione che ti volevo chiedere, che era la questione Brumotti, che forse può interessare Parenzo. Allora, tu sei diventato un grande nemico di Brumotti perché dici che se la va a cercare sostanzialmente. Cioè, allora, mettiamola così, io non è che sono un nemico di Brumotti, però sicuramente non ci stiamo simpatici, anche perché lui, l'ho visto più volte ironizzare su me e altri miei colleghi dandoci dei drogati con quei meme stronzi che mette lui sulla sua pagina di Instagram, e alla fine ti dico, diciamo che non c'è amore. Non penso che io scopra l'acqua calda calda se dico che se ne va proprio a cercare, cioè, ma sempre da siti disperati, capito, che vendono in strada a rompere i coglioni con le telecamere, cioè, non so che reazione si aspetta, cioè, che questi si costituiscano. Tu dici, è scontato il suo lavoro, no. Però lui fa il suo lavoro, cioè, no, Parenzo. Va a caccia di notizie e striscia, questo il lavoro di, no. Non siamo d'accordo, perché non è il lavoro di Brumati, quello è il lavoro delle forze dell'ordine, non il lavoro di uno che va con le telecamere a fare sto cinema, non è il lavoro di Brumati. Posso dirti la verità, però io sono un po' dalla parte di Amischilla, perché lui dice sostanzialmente che è inevitabile che finisca così e loro sanno già che finisce così. Cioè l'obiettivo è quello che stiamo parlando con uno dei miti di mia figlia tredicenne, quindi non posso neanche, quando mia figlia adesso in diretta ascolterà questa conversazione mi dirà: papà, perché l'hai attaccato? È il mio grande, io lo adoro. Non credo che sentirà la zanzara tua figlia di 13 anni. No, le è stato impedito. Ovviamente le è stato impedito perché è una trasmissione immonda. È una trasmissione immonda da non ascoltare. Allora, voglio dire però a questo mito di mia figlia che bisogna veicolare personaggi positivi, anche valori positivi. Perché ad esempio non fai una canzone sull'Europa? Questo sarebbe bellissimo. Che tu facessi una canzone su Ursula von der Leyen. Che non se ne cura nessuno. Che linguaggio è, scusami. Ma voglio dire, se tu facessi nei tuoi concerti una bella canzone in cui raccontassi perché non bisogna uscire dall'euro, sarebbe un grande servizio da fare ai giovani, vai a chiedere a tua figlia come non vede l'ora di sentire una canzone come non uscire dall'euro. Però scusami un attimo, tornando a Brumotti, la questione è molto seria, perché uno, Parenzo dice quello fa il suo mestiere, tu dici no, quello è il mestiere, certo, delle forze dell'ordine. Io dico ancora una cosa, dico che probabilmente l'obiettivo è quello di farsi picchiare. Cioè, penso, certo, l'obiettivo legittimo, poi, per carità. Tu dici per fare il piagnone, cioè l'unico obiettivo di quel servizio là, tu dici non è smascherare cose che già si sanno, lo spaccio. Se voleva smascherare le cose, faceva l'infiltrato e smantellava, capito? Invece cosa aveva a fare così? Vai soltanto a rompere le palle, prendi le botte e tanto quelli continuano a spacciare, cioè non cambia niente. Anche lui che non risolve niente così. Cioè, adesso, ma ragazzi, parliamoci seriamente. Adesso è il suo modo di raccontare le cose, scusa. Ma che modo è? Allora lui non è che dice che non lo deve fare, ognuno può fare il cazzo che vuole, naturalmente, no? Cioè Brumotti può fare tutti i servizi che vuole, uno potrà il problema è chi l'ha menato, non Brumotti. Cioè, scusatevi, il problema è chi l'ha menato, non Brumotti. Cioè il problema è tutto lì, non si può spostare sempre dall'altra parte. Il problema è chi l'ha menato. Ma quando dico che te ne va a cercare, dico, ma appunto, comunque, sicuramente quella non è gente... tranquilla, voglio dire, gente che comunque fa un determinato, cioè tu dici se vai lì con le telecamere ha un'attitudine comunque di strada, quando vai lì con le telecamere a provocare, perché poi è provocatorio anche, che reazione ti aspetti da queste persone? Ripeto, che si costituiscano non accadrà mai, cioè o se ne vanno nel migliore dei casi oppure cominciano a menarti, è già successo miliardi di volte, quindi se continua ed è recidivo, come dice Buon Cruciani, secondo me l'obiettivo è quello, è chiaro che l'obiettivo è quello, ragazzi, cioè il servizio di Brumotti senza le botte a Brumotti non esisterebbe, diciamoci la verità. Il servizio senza le botte, per me va bene, può fare quello che vuole, cioè anche farsi massacrare di botte 100 volte non è quello, però uno dall'esterno dice come una zanzara senza quegli ascoltatori imbecilli che chiamano, cioè come va a finire un servizio di Brumotti con le botte a Brumotti, quelli che chiamano dalla zanzara. Finalmente siamo arrivati a un punto di caduta. Conclusione con Emis però è questa, scusami un attimo Emis, ma il tuo rapporto con la masturbazione qual è? Bello acceso? Cioè riesci anche, che ne so, due volte al giorno di fisso o no? Certo, anche tre, come no? Tre volte al giorno di masturbe. Ma questo pur conducendo una vita sessuale normale, dici? Diciamo, bella colorata. Quello non manca mai, perché l'altro giorno è proprio anti-stress, capito? Come non so, c'è quello che va a farsi la corsetta, quello che dipinge e poi ci sono quelli che si masturbano. Utilizzare la parola troia nei confronti di una donna sembra un'offesa, in realtà è un grande elogio. David, ti posso dire? Sembri Feltri che dice che la parola negri si può usare, cioè, ma che cazzo c'entra? Il mondo al contrario, no. Ma ti posso dire, se uno dici troia una donna, se uno per strada mi dice stronzo, gli do una testata in faccia, adesso voglio dire, per usare il linguaggio dell'amico Killa, la verità sta nel mezzo, bisogna vedere che accezione dai alla parola troia, cioè può essere offensivo e può essere comunque anche un elogio nell'intimità, piuttosto che ma non fare il democristiano. Adesso la questione fondamentale è questa, che se tu dici troia oggi a una nell'accezione generale del femminismo oltranzista delle rincoglionite, vuol dire che la stai offendendo. Per me le fai un grandissimo elogio, cioè la donna troia è una donna per strada, che c'entra per strada, sto dicendo la verità è che agli uomini piacciono le troie, non piacciono quelle che non sono sono troie. Quindi... Ma certo, ma ragazzi, ma è così. Ma dunque, la troia, ad esempio, signor Killa, no, ma aspetta, ma per troie non si intende ovviamente le ragazze che vanno con tutti, si intende una che ha un'attitudine bella calda, insomma, le ragazze passionali. È semplicemente un modo volgare di dire quello spesso. Poi esatto, a volte però... no, quelle che hanno, quelle, diciamo la verità, quelle che hanno un po' di attitudine, un po' di dimestichezza con l'uccello. Questo è il punto fondamentale. Questo no, è però dai. Dipende come lo usi, ecco, non è che puoi dire troia, che ne so, alla commessa al supermercato. Ma no, che ma, ma quello no, però voglio dire, se dici a una ragazza oggi troia, le fa, io ti assicuro, ne conosco tante che dice cazzo, ma è vero, perché per la parola troia ma è una... lo dicono pure tra di loro, ma sì, ma certo, è una cosa ultra positiva, cioè significa ma che se lo dica, e poi anche loro, questa cosa democristiana di Amischilla, no, la cosa democristiana di Amischilla è che dice, beh, non è che vanno con tutte, perché un uomo che va con tutti invece, con tutte invece va bene. Adesso non fare democristiano, una che va con tutti va bene anche la donna che va con tutti, cioè con sì. tutti. No, che... allora, se è single, sì, cioè se è single faccia quello che vuole, certamente. Ma anche perché se è fidanzata, che te frega. Va bene, uguale. No, non ho capito in che anche se uno è fidanzata, che me frega. Tu devi sapere, caro signor Killa, che il signor Cruciani è un amante delle corna. Io provo a spiegare da 10 anni a questa parte che secondo me non è esattamente così. Lei, signor Killa, vuole che la sua fidanzata... tu sei uno geloso, sei pure geloso, sei... Sono molto geloso, sì, sì, non potrei mai permettere una cosa del genere, però insomma, quando una ragazza è singola è libera. No, ecco, questa è una roba che fa incazzare anche me, cioè quando c'è questa ipocrisia di dire che gli uomini possono fare, ma la donna no, perché quello no, cioè, certo, se una donna vuole divertirsi è tutta, ha lo stesso diritto di abbiamo scoperto che sei possessivo, tu sei geloso e possessivo e non potresti sopportare il fatto che una ti fa le corna che va con un'altra e magari te lo dice, non lo sopporteresti. No. Assolutamente no. Ciao Emi, abbracci. Ciao, a presto. Ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ma adesso io voglio dire, il pelo della figa, vabbè, ok, è un argomento che assolutamente va a gusti, ma anche nell'uomo ormai la barba non è più la barba di Mauro Corona, bestia montanara, è una barba relativamente curata, oddio, non è che ci si può curare proprio come le fighe, scusate il termine assolutamente sessista, però come le fighe inteso in senso sinedochico, però porca di una puttana, cioè quel puoi lavartela quanto vuoi, puoi curartela quanto vuoi, puoi fonartela, ma quella frore lì lo sentirai sempre, quindi diciamolo alla signorina 27enne che ad ogni modo anche quando le esce dai pantaloni un po' di smog le rimane intrappolato nei peli. Luciani, paragonare una figa rasata al petto di pollo a me non sembra un paragone perfetto, lo ritengo invece un paragone perfetto paragonare la figa rasata all'orecchia del maiale. Prova a verificare, guardare, Crucio. Ciao, bello. Spino, sono le ore 11:25, sto sulla via Salaria e al posto di Susanna c'è una puttana dell'est con due bocce enormi, ma non c'è la nostra Susanna, rivogliamo Susanna al suo posto, Susanna, Susanna. Prima aprimi, aprimi è la versione inferiore di rompimi, aprimi, rompimi e poi alla fine riempimi, riempi il buco che hai rotto, no? È così, mi sembra abbastanza chiaro. Vabbè, più chiaro di così non lo so che cosa ci può essere. Facciamo un piccolo recap, caro Parenzo, intanto hai letto, hai sentito anzi quella notizia fondamentale che viene dalla Magliana, perché in realtà abbiamo aggiornamenti gravissimi su quello che è successo sulla sulla Salaria, dove si apposta normalmente la nostra Susanna, e pare oggi mi ha mandato dei messaggi, ma fra poco la chiamiamo, in cui sarebbe stata aggredita e ferita da un gruppo, da una persona, brutta storia, poverino, papponi che gestiscono altre prostitute nella zona. Sono piccole storie italiane che però ti fanno pensare come è gestita la prostituzione per strada. Ci sono anche prostitute libere come Susanna per esempio, che non sono gestite da papponi, e però ci sono persone che sono gestite dalla mala, dal racket, da, e queste vanno colpite, queste criminali. Vanno col, non le persone, meno male queste che ogni tanto lo dici anche tu, meno male. Io sempre detto. Io l'ho sempre detto. Sempre tutto lecito, la libertà, il diritto, le cose, cioè, criminali che sfruttano delle donne. Meno male. Però facciamo un piccolo recap su tre coglionate del giorno. La prima è quella di Boccia. Risentiamo Boccia per divertirci. Boccia, ma dice... non è una coglionata per niente, anzi, è una idea, è un'ottima idea. L'assistente civico. Nunzia De Girolamo, pensaci tu. Gli assistenti civici avranno la pettorina, una delle più grandi puttanate sentite negli ultimi giorni. Poi mi leggerai. Ma come quelli che aiutano a attraversare le strade i bambini? Non dire cazzate, quello è quello che ha detto dopo lui per rimediare. Dai, su, è una puttanata. Ma poi no, mi leggerai per intero, però, la critica che ha fatto la signora Giorgia Meloni a questa cosa. Boccia. Gli assistenti civici, guardi, indosseranno questa pure pettorina e saranno 60.000. A disposizione dei sindaci con il loro sorriso, la loro educazione. Ricorderanno nei luoghi dell'assembramento che bisogna fare ancora qualche sacrificio, non bisogna stare insieme, bisogna restare lontani, mantenere le distanze, avere la mascherina e soprattutto tutelare con questi atteggiamenti i nostri cari. Pazzesco. Vuoi leggere la critica della Meloni, che è anche un po', se ma vogliamo, ma non la ironica. Condivido in alcun modo, no, la, ma critica, la critica della Meloni, Meloni, ma leggi, la quale leggi, dice la, ti il prego, governo metterà in campo un esercito di 60.000 volontari chiamati assistenti civici scelti dalla protezione civile, che avranno il compito di aiutare le autorità a far rispettare le regole della fase 2 e le limitazioni della libertà imposte a colpi di decreto. E fin qua tutto vero. Saranno reputati pubblici ufficiali per evitare che siano insultati o aggrediti dai cittadini? Risposta: no, cara Meloni. Chissà se avranno una divisa e strumenti per difendersi, tipo un manganello. Beh, di fatto una milizia autorizzata dal governo. Cos'è, la versione Grillo Piddina dei guardiani della rivoluzione? Credo veramente che si stia esagerando. La deriva autoritaria alla quale stiamo assistendo sta assumendo contorni grotteschi, ma non per questo meno pericolosi di ogni altra deriva liberticida. Al governo consiglio di non tirare troppo la corda, perché gli italiani sono stanchi e arrabbiati. Giorgia. Pancrazio, provincia di Messina, poi chiamiamo Susanna. Ne parleremo, vai. Qui stasera, fuori dal coro. Pancrazio, provincia di Messina, vai. Ciao Grugiani. Dimmi, ah, Pancrazio, legionario, vai, vai Pancrazio. Chi dimmi. Era quello di prima, una specie di rapper? Sì, Amy Schilla, sì. L'ho ascoltato per un quarto d'ora. Sì, sì, Amy Schilla, ottimo, ottimo. Per me i rapper sono a livello di negri musulmani e zingari. Ma però scusa, perché dovrebbero essere a livello di negri musulmani Pancrazio. E signor Pancrazio, signor Pancrazio. Sono sul cazzo. In un paese normale il signor Pancrazio non potrebbe intervenire liberamente in una radio autorevole come questa, ma anche a Radio Bubù. In un paese normale uno come Pancrazio verrebbe preso da due persone vestite di bianco, sedato e messo in una struttura sanitaria adeguata. Invece, siccome questo non è un paese normale, Pancrazio è in libertà, telefona almeno una volta a settimana a questa disgraziata emissione radiofonica e trova uno dei due conduttori che gli liscia il pelo e gli dice pure che è bravo. Questo, cari amici editori della Zanzara, nel mio paese reale, Parenzo, ti manderei a raccogliere i pomodori a Rosarno con i negri. Rosarno, non stare dietro un microfono sul terrazzino di merda che hai. Sì. Non è un terrazzino, ma è un buono. Terrazzo. Non è un terrazzino. Non è, è una terrazza, intanto. Terrazzino, la terrazza è la mia, 600 metri quadrati, coglione. E come te la sei fatta? Come hai fatto? Magari sono abusiva, magari abusiva, che ne so. Sicuro, ma sicuro. Che zona abiti, che magari ti mandiamo un controllo? Dimostralo. Tutti i controlli che vuoi. Lo dimostrerai. Ma questo ha fatto il legionario, non ti conviene. Questo ha fatto il legionario, amico. Ma quale legionario questo qui? Ma questo qui no, se si sta andando a fare la spesa. È sicuro, ha fatto il legionario, amico. Ha passato un sacco di gente. Legione tra legione étrangère. Vabbè, Pancrazio, perché hai chiamato? Dai, che devo chiamare cosa? Che devo chiamare Susanna? Volevo dire semplicemente che voi lombardi non vi vogliamo in Sicilia. Stato in Lombardia, non rompete il cazzo. Pancrazio. Ma amico mio, meglio in Sicilia col cazzo che ci vengo. Ma che me ne frega a me di andare in Sicilia? Bellissima la Sicilia, meglio state dove siete. Ma perché? Perché lo sai che il virus non è partito da Wanda, ma è partito da Milano. Ma da Lombardia. Ah, da Milano è partito, il virus. Da eccolo qua, è partito da Milano il virus. Ciao legionario. Ciao legionario, ciao, ciao. Sì. Chiamiamo Susanna, vai. Pronto, chi è? Susanna, sono Giuseppe. Oh, ciao. Come andiamo, tesoro? Qui siamo con Davide, che è successo? Guarda, eccoci, ma sto qua malissimo, guarda. Ciao David. Ma che è successo? Ciao, non ho capito. Ma successo? Cioè, t'hanno aggredito? Ma guarda, ormai ce l'hanno con me. È una storia molto brutta, guarda. Che a febbraio mi hanno bruciato la baracca lì dove lavoro. Vabbè, quello lo sappiamo. Adesso se l'è presa una rumena. È andata lì e lavora al posto mio. E quindi già questo è un segnale chiaro, che sì. È lì, racket, c'è, e poi c'è ieri racket, sì, sì, ma sicuramente è quello, guarda, perché ieri io sono andata sulla Salaria a fare un giro con la bicicletta, così una bella giornata, ho detto sì, vabbè, sì, magari se capita qualcuno a pedalo tranquillamente, stavo pedalando, mi arriva una macchina a una velocità che non sai come, da dietro mi dà una violenta, così mi fa cadere, scappa via in avanti, cioè non, cioè, ho più chiaro di così, che è una macchina loro. Non ho capito, ma loro di chi? Cioè, innanzitutto cosa ti delle sei fatta? Delle ragazze, se sono rotti il cazzo che vado lì, perché ormai sono famosa, mi avete fatto diventare una star, sono venuti tutti, poi tu lo sai, io te l'ho detto ma mille scusa, volte, ma la che macchina mi piace il hai identificato, allora, la macchina, il numero di targa? Mi ha buttato per terra, e io distinto mi sono rotolata verso il marciapiede, sulla sì, destra, perché sì, stavo completamente in mezzo alla strada, avevo il terrore che arrivava uno da dietro. Sì, ma che ti sei fatta? Mi prendeva piena. Alla fine che ti sei fatta? Non ho capito. Che mi sono fatta? Sono tutta rovinata, fratture, contusioni, piede, coscia, gomito, mano, polso. Ma stai a casa adesso? A sinistra, certo. Ma io sono andata al pronto soccorso ieri. Ma sei andata pure dai carabinieri a denunciare sta roba? Ma se sono fermati i carabinieri, mi hanno detto: Susanna, ma la vuoi capire che qua tu rischi di morire? Ma lo vuoi capire o no? Ma pensa che io sono andato dai carabinieri proprio qualche giorno fa, perché sono una persona per bene, io ho chiesto il permesso al comandante. Sì, come no, se certo, potevo andare a pedalare sulla Salaria, perché mi hanno fatto la multa, e lui mi ha detto: Susanna, ma come no? Certo, vai, però stai molto attenta, perché è una strada pericolosa e soprattutto non si può lavorare ora che c'è il Covid, no? Sì, detto, sì. No, comandante, vado solo a pedalare, mi faccio vedere un attimo che ci sono. Questi qui della mala, caro Giuseppe, caro David, non mi vogliono più, rotti i coglioni. Cioè tu dici, tu sei troppo indipendente, perché? Per stare lì, ci mettono quelle loro, ci vogliono mettere quelle loro perché tu hai fatto troppi clienti, attiri troppe persone, fai troppi soldi. Secondo me io lavoro perché lavoro bene, perché faccio stare bene il cliente, sì, e con 50 euro mi hanno un paradiso, sì, e se sono rotti il cazzo, capito? Perché i clienti sono dipendenti da questa sessualità che io do, così certo, bella, così vera, perché a me mi piace quello che faccio, e si vede che questo lavora in un altro modo e non lavora più nessuna, e se sono rotti il cazzo, mo come me, guarda quello che è successo ieri, è chiaro. Cioè un investimento proprio fatto apposta. Si sono fermati a dirmi: signora, ma che è successo? E questo è scappato via. Dunque tu pensi addirittura di averlo riconosciuto? Cioè è il pappone? No, io non ho riconosciuto. Però tu dici è il pappone di qualche prostituta che sta lì. Io penso di sì, perché non è possibile una cosa del genere. Carabinieri, intervenire. Ma scusa, ma di domenica pomeriggio alle 2 non c'è una macchina? Possibile che questi non mi hanno visto che stavo pedalando? Ma mi sono venuti addosso apposta, no? La casca questa, così non viene più, ha rotto il cazzo. È così. Comunque, ragazzi, che tragedia. Cioè, la realtà è questa. Non so, guarda, non sai come sto. Ma tu dici che non potrei fare la prostituta per un po' di tempo, non potrei lavorare per un po' di tempo, dici? Ridotta così. Io penso che lì sulla Salaria meglio che non ci vado più, perché ho capito, ragazzi, ma io, contro questi qua. Allora, lei è una puttana libera, una prostituta libera e fa il cazzo che vuole. Questa è la differenza, Parenzo, che tu hai sempre negato. Lei è una prostituta libera. No, poi tu potrai contestare il fatto che può quello che fa, eccetera, eccetera. Ma qui abbiamo invece delle persone che sono gestite la criminalità, ho capito. Va protetta la nostra amica della Salaria, va protetta, ma soprattutto va identificato questo criminale, no, e va arrestato, no, lui e tutta la sua banda di ma tu dici di, che non c'è, tu dici che è impossibile, cioè hai rinunci ormai. Ci sono le telecamere sulla Salaria, cioè, sai, non ci sono lo so, le telecamere, guarda, non lo so chi possa essere stato, ma tu sicuramente è stato fatto apposta e sicuramente viene da lì. Io voglio capire una cosa, a che velocità mi ha buttato giù per terra quello? Io, perché mi alleno tutti i giorni, mi faccio 100 km al giorno con la bici, so cadere, sono 20 anni che pedalo, ma mi ha rovinato questa caduta stavolta. Io voglio capire una cosa, tu hai intenzione... La gamba non riesco a piegarla, chissà quando potrò riprendere la bicicletta. Ma tu hai intenzione di combattere o no? Non ho capito, vuoi abbandonare questa partita? Io ho paura a tornare sulla Salaria, non penso che tornerò più, perché io non voglio morire. Capito? Tanto guarda, ovunque pedalo la gente mi riconosce, quindi lavorerò in un altro modo, Giuseppe. Io lì mi sentivo casa mia, lì era casa mia, la Salaria, ci siamo conosciuti là. Sì, ma non bisogna, fatto... non bisogna avere paura di questi qua, però, perché bisogna... Ma bisogna combatterli, bisogna denunciarli e combatterli. Ma che combatti? Combatterli, denunciare questa cosa qui ai carabinieri. Questi stanno là da 30-40 anni, sono arrivata io a romper il cazzo, da 8-10 anni. Vabbè, ma ho capito, capisci? Ma... Ti dà fastidio che io lavoro, capisci? Io lavoro, questo è il problema. A me la gente mi cerca in continuazione. Certo che dà fastidio questo. Si sono stufati, basta. Quella è la strada loro. Vabbè, ti abbraccio. Comunque, guarda, non si molla la situazione, non si può mollare così. Io muoio di paura adesso. Ti abbraccio, ciao. Ciao, presto. Ciao. Avanti tutta, ragazzi, qui non si molla, Lei aveva molte perplessità, non voleva intervenire, dice mi minacciano, poi mi ammazzano, eccetera, ma questi criminali in realtà dovresti fare qualcosa di concreto, dovresti portarle non solo adesso? La solidarietà, dovresti quando viene a Roma aiutarla, andare lì sul posto sulla Salaria per vedere com'è la situazione. Sulla Salaria? Che fa da invece fare tu stai Salaria? Dietro un microfono e dici dai vai avanti cara, vai avanti tu, vai avanti tu, e lui denunciamo tutto, ma che denunciamo tutto? Quella sta in prima linea, mi metterò in contatto con i carabinieri e la polizia locale della stazione di servizio di Fidele, non so di cosa, per capire se è vero che c'è qualcuno l'entità che... della gravità, esatto, questo devi farlo. Ti do solo un dato, amico mio, il 35% ricerca australiana, non so quanto autorevole, il 35% degli uomini e il 17% delle donne si masturbano mentre sono in smart working. Questo è un problema grave, eh? Il 35% degli uomini e il 17% delle donne si masturbano mentre sono smart working, che in questo momento, come sai, l'ufficio studi australiano, in questo caso. Alberto da Bergamo, vai Alberto. Ciao ragazzi, dimmi. Due cose. Prima di tutto volevo dire col siciliano che il virus non è partito da Milano, perché sennò... Vabbè, ma lascia perdere quello della... Non c'è neanche bisogno, è un mentecatto, chiama qui, telefona qua, è un mentecatto. Cioè, no, però già al momento stesso in lui chiama. È l'unico mentecatto che c'è qua, ci sente Parenzo, quindi... No, ma adesso non volevo offendere nessuno, perché non se la prenda sul piano personale. Un'altra cosa, volevo sapere come mai noi che stiamo in giro a fare l'aperitivo e così vengono a rompere i coglioni queste guardie musulmane che si sono trovate, hanno finito il Ramadan. I musulmani che si sono trovati per la fine del Ramadan, dice lui. I musulmani che si sono trovati per la... Nessuno ha rotto i coglioni quelli, perché non come hanno fatto male anche quelli? Se erano fuori perché norma, hanno fatto male fuori. Perché non hai mandato là da loro? Perché non hai mandato là da loro? Perché non hai mandato? Perché non ti sei incazzato con quelli là del Ramadan che si sono riuniti invece là del Ramadan? Si sono riuniti ed erano in un contesto che non si poteva, certo che vanno anche loro sanzionati. Ma come? Adesso ragioniamo con pacatezza sulle cose, sui fatti. Se uno infrange la legge va comunque segnalato. Cosa c'entra Ramadan o non Ramadan? Questa spiegazione sa di... cos'è la questione di base, il punto vero, sa qual è? Qual è? È che lei è un coglione. È che lei è il punto vero, il punto vero finale di tutto alle 20:50, come sembra, non è soltanto italiani. Lei è un coglione. Fermi tutti. Questo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi, luci, lampade, ozoni, madonne.